Comitato di, come si chiama? Promotore organizzativo per anziani. Ecco, ai tre comitati, scusate, oltretutto stasera non sono particolarmente, perché sono un po' influenzato, no? La relazione che abbiamo avuto nell'ultimo incontro, con le proposte che sono uscite, no? Poi l'ordine del giorno è tavoli di lavoro e le future iniziative, visto che l'avevamo poi previsto l'altra volta, e terzo e ultimo è il discorso delle candidature, no? Perché ormai il tempo è scaduto, nel senso di dire che ci sono già quattro candidati in lista, no? E stasera, dato che l'assemblea era anche il momento, no? Di raccogliere, di presentare e di confrontarsi su questo, se dovessero esserci altre proposte da questa assemblea stessa. Io direi sui due temi, ecco voi, 5 minuti al massimo, no? Anche perché di illustrare i tre, dopo parti tu, dopo lei e io. Lei era stata nel comitato di garanzia, sì, no? Io di gran molto poco tempo. No, allora, come comitato di garanzia abbiamo deciso di fare in questo modo, di mandare un'email a tutti i candidati per presentare entro il 15 di ottobre le persone che devono raccogliere le firme, soprattutto per chi non vuole avvalere dei consiglieri o deputati. Finora sono state due le persone che hanno mandato le richieste, uno è Maganti che è più presente, l'altra è Gisella Introzzi. Per quanto riguarda gli altri due candidati invece non hanno ancora mandato nulla, quindi siamo in attesa di questa cosa. Come comitato di garanzia noi interverremo, si spera, mai, perché si spera che tutti i candidati tengano un tenore molto civile e non offensivo nelle varie conferenze, quindi speriamo di non intervenire mai. E soprattutto il nostro appunto quello di dire se le firme sono reali oppure no, quindi noi siamo proprio più un discorso proprio di un po' tecnico, quindi direi che è una cosa... Voce. No, stavo dicendo che il nostro ruolo è un ruolo tecnico, nel senso che è un ruolo che interviene in itinere. Per il momento ci siamo limitati a prendere atto del fatto che due persone hanno chiesto l'autorizzazione per raccogliere le firme, uno è Bruno Maganti che è qui presente, l'altro è Gisella Introzzi. Gli altri due candidati che per il momento circolano ancora, Lucini, non hanno ancora fatto avere. Non hanno ancora fatto pervenire nulla, quindi vedremo un attimino come si comporteranno. Ovviamente se possono chiaramente avere anche dei raccoglitori di firme come deputati, consiglieri, eccetera. Se invece prendono delle persone comuni, ci preserveremo il diritto di dire, vabbè signori, sono garancia, sono persone oneste oppure no, in questo momento l'unica cosa da fare è quello. Quindi io ho finito come comitato di garanzia. Va bene. Il comitato organizzatore invece... Il comitato organizzatore invece si occuperà degli aspetti proprio tecnici dell'organizzazione, anche comunicativa, per cui di individuare le sedi in cui verranno organizzate proprio le primarie, in cui si andrà a votare materialmente, di trovare le persone, e quindi si cercano volontari che faranno da scrutatori e da presidente dei seggi, della campagna di comunicazione, e quindi volantini, poster, di pubblicizzare le primarie e dell'organizzazione dei confronto tra i candidati, per cui sono previste 4-5 serate in cui i candidati si confronteranno tra loro. L'idea è quella di organizzarli nelle circoscrizioni. Questo discorso poi lo riprenderemo più tardi a proposito dei tavoli tematici, perché cercheremo un incrocio con questo lavoro. La settimana venerdì scorso, ci ritroveremo anche domani sera, venerdì scorso si è parlato appunto delle circoscrizioni in cui si andrà a votare e di questi aspetti, di organizzare anche un video da passare su TV Espansione, dei volantini, dei loghi e di tutto quanto concerne l'organizzazione pratica. Sì, ecco, invece noi come comitato promotore, no, che se ha trattato l'aspetto che era quello, soprattutto l'aspetto della organizzazione, dell'eventuale organizzazione, che poi l'hanno trattata anche loro, anche se siamo riuniti in tavoli separati, no? L'aspetto degli incontri che era già previsto, no, all'interno all'origine, no? E si parlava di fare 5 incontri, anche tenendo uno alla settimana sostanzialmente, con tutti i candidati sui temi più importanti, dopo adesso io non ho qui l'elenco giusto, e eventualmente con delle ipotesi poi nelle circoscrizioni maggiori, no, più importanti, no, non si poteva coprire tutte le circoscrizioni, che avrebbe voluto dire un incontro bisettimanale e poi alcuni bisettimanali, però cioè non è niente di deciso anche questo, si può comunque effettivamente discutere tutto, nel senso di dire che sarà una prima volta, ma è tanto di portarci avanti, quindi di prendere, prenotare le sale nelle varie circoscrizioni, eccetera, no? Ecco, questo anche noi abbiamo discusso sostanzialmente di questa cosa. Oltretutto, a livello proprio organizzativo, no? Gianfranco, giudice, che l'altra volta forse avevo forzato io un pochettino, sì, infatti, anche perché è stato all'ultimo momento anche quello, che mi aveva già espresso subito dopo comunque la sua indisponibilità, perché per ragioni sue personali ha rassegnato, diciamo, le sue dimissioni, no? Diciamo così. Per cui io direi stasera di riuscire, e ho già avvisato il comitato se possiamo sostituire, anche perché è dentro del comitato organizzativo, che è quello anche più impegnativo, perché è legato anche a un po' di cose pratiche da fare, ma non soltanto loro, voi, cioè chi fa parte, ma anche poi di tenere i rapporti forse anche con altre persone. E quindi io direi, se c'è la possibilità di stasera di individuare una persona che possa sostituire Gianfranco all'interno di questo, votiamolo e io comunico subito il cambio del nominativo, no? Così. Ecco, diciamo, quindi è partito il discorso delle primarie, no? Anche se adesso è tutto soprattutto concentrato l'attività sul discorso della raccolta delle firme, no? Per cui adesso i candidati, ho visto che hanno cominciato già a presentarsi, chi si è messo in gioco adesso, no? Hanno già cominciato qualcuno a presentarsi, la settimana prossima penso ci sarà l'ultima presentazione perlomeno dei 4 candidati che ci sono, che si sono presentati in questa fase, per cui questa fase è un po' la fase ancora interlocutoria, che può permettere però a quelle ipotesi che avevamo noi, e qui comincio già a introdurre eventualmente il secondo punto, no, salvo se volete discutere su, o far domande o chiedere chiarimenti su questa cosa qui. Però c'è un dettaglio, che è quello della cifra, no, da mettere. Ah sì, mi dimentico sempre, ostia, infatti, no, dopo a finire che... Ecco, noi abbiamo, le primarie sono fatte anche di un aspetto economico. Allora, la prima parte, noi avremmo deciso in questo modo, no, assieme a tutti. Come e chi contribuiscono? Contribuiscono tutte le forze politiche che hanno partecipato, no? che stanno partecipando. PD, PSI, PACO, SEL e primarie per Como, no? E abbiamo detto, come, però c'è un peso diverso anche, allora avremmo indicato che il PD si prende la metà delle spese e tutti gli altri in proporzione, quindi si ipotizza in una prima fase un impegno di 3.000 euro, no? per le prime spese, e con un massimo si pensavano di rimanere al massimo sulle 7.000 euro, che in parte verranno coperti dalle entrate dei 2 euro che si chiederà a chi andrà a votare. Quindi metti caso che vanno a votare 4.000 persone, non ci sono problemi. Ecco, i soldi che sono messi all'inizio avevamo deciso di lasciarli a favore del candidato, che sarà poco, sarà quello che è, ma Se dovesse esserci un'entrata inferiore, se proprio va male male male le primarie che partecipano 2.000 persone e che proprio a livello economico parlo, che mettono 2 euro a testa, 4.000 euro, 3.000 abbiamo messe noi, non stiamo lì neanche a litigare dopo su chi deve metterci i soldi, ecco. Io sono convinto che, allora, ci chiedono, ci siamo chiesti a tutti questo contributo e a noi spetta 375 euro da mettere, che si chiedeva già l'altra volta, abbiamo messo, e lei è la nostra tesoriera, nominata sul campo, e poi tesoriera anche dall'altra parte, quindi ho detto ragazzi stiamo a dirvi. Vabbè, stasera se siete d'accordo, al limite lasciate lì, ecco c'è la scatoletta, no? Chi ha le possibilità, la voglia di farlo, di mettere un po' di soldi. Altrimenti io richiamo subito ai primi e comincio a guardare ai primi, a coloro che sono mossi per primo a mettere mano al portafoglio, perché quello va fatto subito, cioè, quindi io direi stasera, senza che tremi la mano a nessuno e soprattutto non monete ma pezzi di carta e soprattutto non quelli grigi ma quelli rosa, no? Di mettere mano e metterli giù là, no? Dico così, ecco, va bene, questo è l'aspetto, diciamo, c'è qualcosa, ecco, se qualcuno vuole chiedere, qui sono come dicevamo saggiamente, raccogliere 250 firme in così breve tempo è un'impresa molto difficile, no? Non vorrei che, siccome ho sentito qualcuno dire che si potrebbero procrastinare le date, non qui, no? E ho sentito qualche voce, no? Perché non so da che parte arrivi, no? Una era del PD interna, no? Non so di che corrente, non mi interessa. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, alcuni candidati che tu non hai segnalato come commissione di garanzia, mi risultano che le firme le stanno già raccogliendo. Sì. Senza passare dal comitato. No, non è necessario che... Allora, il comitato di garanzia ha chiesto di avere le persone che raccolgono le firme se queste persone non sono consiglieri. Io penso di scrivere una lettera al Presidente dicendo che secondo me dovrebbero dirlo tutti, indifferentemente dal fatto che siano consiglieri o meno, perché questo è un discorso di correttezza nei riguardi di chi l'ha fatto. Tenendo presente che anche per chi ha presentato le firme c'erano comunque delle persone che erano a tutti gli effetti onorevoli oppure no. Quindi dal momento che due candidati hanno volontariamente hanno detto questa cosa, non capisco perché gli altri due non debbano comportarsi negli altri due. Quindi questa cosa è una cosa che io dirò al Presidente, secondo me deve essere fatto. Però deve comunque essere una garanzia, altrimenti cominciamo a avere una sperequazione che non è corretta. Poi volevo dire un'altra cosa, io sono disponibile, non avevo nulla da fare, no? Dare una mano per la propaganda per le primarie, però una cosa che occorre lì sono le biografie dei candidati, cioè non è che uno deve rompersi le palle a spiegare chi è Magatti, chi è Introzzi, no, perché dopo no? Andando magari su internet a introvarsi le biografie, perché se tu no, fai una campagna, no? Correttamente devi, se uno ti chiede chi è Lucini lo devi dire, no? Non è che non devi dire, no? Poi tu puoi scegliere chi vuoi, ma i 5 candidati o 6 quanti saranno devono avere possibilmente una biografia su un unico foglio, che è molto più serio, in modo che si dia lo spirito di una competizione fra alleati, non fra nemici. Stiamo attenti a queste cose, sì, no? Sì. Poi magari ci sarà qualche candidato che zelota più di altri, farà alcune cose magari disdicevoli, no? No, spero di no, no. Ma almeno noi che siamo un comitato serio, no, fuori dai partiti, dobbiamo vigilare perché ci sia una correttezza complessiva. Quindi io sono disponibile, no, a diffondere questo tipo di materiale. Però l'altra volta io ho posto un problema, no? Non so se questa sede non è adatta, mi organizzerò da un'altra parte. E le provinciali? Hai ragione. No, mi dovete spiegare, no? Perché sulle provinciali avvengono i pateracchi tra partiti, no? si dividono, no, le torte, poi e sbagliano generalmente, siccome sono collegi nominali, se io a Muggio mando uno di Prestino, sbaglio, no? Perché quelli di Muggio non sanno chi è quello lì di Prestino, a meno che abbia uno zio lì a Muggio. Quindi anche sulla presidenza, no, non so se c'è questo tagliabue candidato, ma mi sembra un po' pochino che ci sia un candidato di area cattolica, no? E non ci sia un candidato di area laica. Quindi noi che siamo un comitato dobbiamo inventarci un candidato anche noi alle presidenziali, e almeno per la città di Como, e non solo la Convalle, per città di Como intendo anche i quartieri, dobbiamo individuare, no, alcuni candidati, o fare in modo che escano alcuni candidati che sono molto importanti anche come supporter degli stessi candidati alle comunali. No, stiamo attenti, no, che le provinciali, no, sono abbastanza importanti, perché l'uninominalità del candidato fa sì che questo sia un artefice rispetto alla captatio benevolentiae degli area, no? Essendo un'area abbastanza piccola, il candidato individuato può muoversi per tempo e bene, e aiutare anche, no, i candidati comunali, perché il candidato provinciale, no, quando riceve il candidato comunale, chiunque esso sia, è lui l'anfitrione, perché è noto in zona, a meno che i partiti, no, sbaglino le candidature, come spesso fanno, mandando nei collegi nominali degli stranieri. Questo è un errore gravissimo che noi dobbiamo impedire che si faccia. Io sono contro le province, ve lo dico subito, ma finché ci sono è meglio avere dei rappresentanti ben degni. C'è qualcuno che si candida quindi per il comitato organizzatore? La presidenza della provincia. Beh, allora dico che io non ho, potrei anche pensare di prendere la porta da parte di giudice se lui mi voleste, ma lo farei soltanto sapendo che cosa diavolo stiamo andando a fare. Apprezzo la questione delle province, ma mi sembra che questa assemblea, per come si è ridotta proprio fisicamente, dimostri che non abbiamo la forza assolutamente di andare a fare un discorso anche su quel campo. Mi sembra invece che qui abbiamo la necessità di tenere la posizione che ci siamo conquistati fino ad adesso. Allora, cosa accade? Sì, cosa accade domani quando ci si incontra a livello di coalizione? Che ci saranno gli altri quattro elementi, e c'è Primavera Vera per Como. Piaccia o non piaccia, io qua vedo molta meno gente di quanto ne vedevo prima, quindi evidentemente a qualcuno non piace più. Che c'è stato anche poco tempo per organizzare questa. No, gente. Io ritengo che questa non sia la questione del poco tempo. Penso che la questione sia che acquattati già dietro i candidati, un po' di persone pensino che il nostro ruolo qua dentro sia già belle che esaurito, almeno per questa fase delle primarie. Allora, siccome quello che ci interessa innanzitutto questa fase delle primarie, ci chiamiamo primarie vere, noi fino alle primarie ci dobbiamo arrivare in un modo o nell'altro. Nessuno neanche può pensare di chiuderla questa cosa, perché siamo uno dei cinque soggetti che ha firmato con la benedetta coalizione. Ma se vengono proposte cose sacrosante come incontri tra i candidati fatti a livello di coalizione, la domanda è: il nostro ruolo qual è in questi incontri? Siccome è evidente a tutti che noi non esprimiamo nessun tipo di candidatura, il nostro ruolo dovrà ben essere propositivo in qualche maniera. Quindi io vorrei fare una proposta precisa e dire: questi quattro incontri, proponiamo noi una personalità da affiancare ai candidati, ogni volta finalizzata a un tema. Quindi proponiamo noi domani sera che questi quattro incontri siano tematizzati in una maniera del tutto simile, che possiamo discutere qua assieme, a quella che già avevamo impostato a livello iniziale sui tavoli tematici. Dire che ci sarà un tema, potrebbe essere l'urbanistica, un altro l'economia del lavoro, un altro il turismo, l'università. Quei quattro temi che avevamo già messo giù potrebbero ancora essere validi. Invitiamo quindi tutti i candidati a confrontarsi su questi temi di volta in volta, e noi portiamo una personalità, che non è detto che debba essere per forza espressione di questa assemblea, deve essere una personalità che deve tenere un livello, se possibile, alto, almeno quanto quello dei candidati, in modo che possa impostare il tema in una maniera, diciamo, preprogrammatica, no? Che dia il tono dell'argomento. situazione. Se ancora esiste la disponibilità, come credo che esista, di alcuni di noi a partecipare a gruppi di lavoro su questi temi, che questi gruppi finalizzino il loro lavoro a portare delle domande ai candidati in quelle occasioni. Questo secondo me è il ruolo che dobbiamo fare da qua alle primarie, no? E quindi io direi che potremmo anche, come dire, avere la posizione giusta per poter proporre un palinsesto sostanzialmente di queste presentazioni, né più né meno, nel senso che di fianco invece a queste presentazioni pretendere di fare noi degli incontri tematici che avrebbero bisogno della presenza dei candidati, non credo che ne avremo né la forza né forse neanche la necessità come cosa. Tutto ciò anche finalizzato a tenere una parte post primarie per poter essere ancora presenti e incisivi per il possibile a livello programmatico. Se noi non ci prepariamo su questi temi adesso, non saremo mai propositivi neanche al passo dopo. Quindi chiunque abbia pensato che è il caso di sospendere l'assemblea fino dopo la primaria, secondo me si sbaglia, e credo che non ci sarà una gran difficoltà ad avere una votazione a favore in questo senso, perché chi è di quel parere qua non c'è. Quindi secondo me su questa cosa potremmo anche pretendere di andare avanti. Se la cosa è così, io volentieri mi proporrei di portare avanti il comitato organizzatore su questo. Ecco, faccio un'integrazione. Prima ho omesso di dire un altro pezzetto. Nell'ipotesi della, che però può essere modificata sicuramente, nell'ipotesi degli incontri tematici, no? Si proponeva di individuare un giornalista, no? che conducesse. Invece tu giustamente... Io specificherei, ma è una proposta. Sì, sì. Io non ritengo, sarà che mi sta sulle scatole la parola, ma non ritengo che noi dobbiamo fare i moderatori a questi incontri. Noi dobbiamo fare i propositori, gli stimolatori per quello che è possibile. Ci vorrebbe un moderatore. Questo moderatore giustamente forse potrebbe essere un giornalista. E allora lì abbiamo già parlato di alcuni nomi, esatto, che ci sono di giornalisti, no? Quindi possiamo votare questa... Sì, questa, no, questa è una cosa interessante, no, secondo me. Aggiungerei una cosa a questo ragionamento. Aggiungerei il fatto che secondo me la nostra funzione dovrebbe essere quella di collegare le primarie alla città, perché altrimenti rischiamo di fare le zone di primarie, come dire, un po' di apparato, un po' vuote, che non riescono a intercettare la città. E l'altra cosa che penso che alla fine, se noi riusciamo a fare in modo che questo collegamento fra questo percorso e la città sia un collegamento vero, i contenuti di quello che può essere il progetto del nuovo sindaco, di quello che vincerà le primarie, non sono semplicemente la sua espressione, magari diversa da quella degli altri candidati, ma che sia un percorso per cui alla fine i contenuti della campagna elettorale del nostro candidato sindaco, di qualunque esso sia, siano il frutto del lavoro collettivo di una città dove permettiamo alle persone davvero di portare il contributo della propria conoscenza, dei propri bisogni, del proprio vissuto. Se riusciamo a fare un percorso di questo genere, di collegamento alla città, allora probabilmente saremo in grado di essere forse anche vincenti rispetto a una partita politica, perché altrimenti verremo confusi con sono tutti uguali. Allora, noi abbiamo la capacità di dimostrare che non siamo uguali, che intercettiamo quell'indignazione che serpeggia nella vita di ciascuno, e anche di ciascuno di noi, e riusciamo a diventare l'espressione e coagulare questo sentimento, questo bisogno di cambiamento, o altrimenti credo che la nostra partita difficilmente possa essere una partita vincente. Gianfranco Giudice, ecco, chi si vuole intervenire se me lo dice, così almeno coordiniamo. La mia è soltanto una precisazione rispetto al perché io non intendo partecipare a questo organismo. C'è una motivazione ovviamente di carattere logistico, personale, che dipende dalle mie difficoltà nel poter partecipare a questi incontri, però per onestà intellettuale e politica c'è anche la mia difficoltà a rappresentare in un organismo collegiale della coalizione un'assemblea come questa che dal mio personalissimo punto di vista da un certo momento in poi ha preso preso una strada che io non condivido, cioè nel senso che l'esito al quale è giunto questo percorso, che oggi è quello appunto di candidature già formalizzate e definite, che stanno raccogliendo le firme, le primarie che ci saranno appunto, candidature che saranno presentate entro il 20 di ottobre, quello che è, ecco, io rispetto a quest'esito, come dire, non ho condiviso appunto un certo percorso, quindi per serietà, come dire, non posso essere colui che rappresenta un'assemblea se non condivide appunto il risultato. Per essere più preciso, farlo molto breve, le cose che adesso Marco diceva in parte, come dire, rifletto anche un mio stato d'animo. Cioè, questa assemblea partecipa ad un tavolo collettivo con altre forze politiche che comunque esprimono delle candidature in modo ufficiale, che faranno una campagna per le primarie. Questa assemblea invece appunto è un organismo di garanzia, però voglio dire, un organismo di garanzia secondo me troppo poco, cioè nel senso che io avrei ritenuto giusto che da qui, attraverso un dibattito di merito sulle questioni della città, emergessero in modo evidente e trasparente delle candidature che così giocavano insieme ad altre evidentemente la partita del primario. Questo non è avvenuto e quindi voglio dire, io tengo a ribadirlo a questo punto qui, cioè io non faccio parte più di questo organismo, non soltanto perché non posso arrivare alle 6:30 alla riunione, quello certamente è un problema, perché poi bisogna fare i conti anche con questo, ma c'è anche questo motivo qui, ecco, evidentemente questo è un altro tipo di problemi, che è un problema mio, evidentemente non, però ci tengo a ribadirlo questa cosa qui. Donato, potete venire qui se riuscite, perché lui riesce a riprendere meglio. Sì, dai, tanto... Ma io tengo a dire che sostanzialmente intanto sono in linea con quanto col pensiero espresso prima da Gianfranco. Tengo a dire una cosa ovvia, cioè questa assemblea non ha espresso ad oggi un proprio candidato, questo sia chiaro. Noi abbiamo espresso fino ad oggi una pre-candidatura che è rimasta pre, fino ad oggi è pre, senza pre non c'è più nulla. Un elemento di riflessione che forse ha indotto qualche, come dire, illusione, si è pensato fino a un certo punto che questa assemblea potesse esprimere un candidato civico tra di noi, qualcuno che potesse correre con candidati di sigle formalizzate, sigle storiche, no? Partiti più o meno grandi che ci sono, per arrivare a un confronto che potesse poi alla fine dire, beh, chi vince prende anche l'appoggio di chi perde. Erano questi i patti iniziali, no? L'illusione, chi che sia capace questa assemblea di esprimere propri candidati, qualcuno, appena qualcuno è sceso in campo, parlo di Luca che non c'è questa sera, io ho visto, ma mi prendo la responsabilità di ciò che dico, ho visto i vecchi giochi, quelli storici, quelli vecchi, quelli che io non sopporto, da una vita che non sopporto, le mezzucce, i giochi dietro le quinte, tant'è che abbiamo delle candidature espresse e, mi spiace dirlo, qualcuno di noi è già schierato a raccogliere le firme. Nulla da dire, è legittimo per carità, ma capito, un conto è lo spirito del quale, con il quale ci si illude, un conto è poi la pratica che assomiglia al vecchio. Bene sarebbe stato se dentro qui ci fossero state le candidature proposte e poi chi vuole sceglie quale parte appoggiare. Ma siamo di fronte ai fatti compiuti, abbiamo delle candidature, qualcuno le ha volute, potrei fare nome e cognome ma non lo voglio fare, se siete più bravi di me, che sono state poste lì chissà perché, forse per contrastare questa assemblea, alla quale è rimasta oggi il compito che diceva lui prima, o ci ritiriamo e siamo fottuti, e poi a che titolo ci ritiriamo? Siamo tra i firmatari, no? Cioè, cosa facciamo, i pagliacci? Oppure ci stiamo e cerchiamo di incidere un pochino, secondo quello spirito, io dico, incisivo iniziale, che tendeva a dire, mettiamo sul campo forse idee capaci di modificare un pochino l'assetto che preesiste per andare verso altro equilibrio. Questo è quanto ci rimane. Ahimè, con amarezza dico queste cose. Io ci sto in questo progetto ancora, ma con amarezza, con la solita illusione. Ero illuso all'inizio. Una volta dissi da qualche parte, gioco le mie mani e quelle dei miei figli, dissi, una cosa grossa, no? Per dire quanto era grande la mia, il mio credere che si potesse fare. Poi strada facendo ci rendiamo conto che i soliti giochini sono sempre gli stessi, c'è chi fa la partita, la gioca fuori campo e poi mette in campo i protagonisti. E vabbè, d'accordo, questo è come, purtroppo, ne prendiamo atto. A questo punto io sono d'accordo con chi ha detto, con lui, con Giampaolo, con Gianfranco, bisogna starci fino in fondo, perché io non voglio lasciare il campo a queste pratiche, a queste logiche, e quindi ben venga l'occasione per poter stare in questi momenti assembleari di confronto per mettere lì un pensiero più radicale, un pensiero più incisivo, con la speranza che quello che poi verrà fuori abbia un pochino di qualità in più. Grazie. Donato, no, non tu, Supino. L'altro Donato, Supino. Se puoi venire qui è meglio. Sì, visto che... Spesso rosso. Sei grande. No, noi mi permetto magari di essere leggermente più lungo di qualche minuto. Sì, perché non l'hai parlato, giusto. No, noi abbiamo partecipato, parlo a nome della Federazione della Sinistra che incorpora la Rifondazione Comunista e il PDC. Cioè, sapete per quelle che valiamo, pertanto è inutile che, diciamo, sotto punto numerico, tanto per intenderci, perché sul punto di vista della sostanza pensiamo di avere la nostra dignità e di confrontarci con tutti. Noi a questo percorso che avete tirato in piedi abbiamo seguito in maniera alternata, ma quelle che ci ha seguito di più è l'Edoardo Spolidoro, che è della segreteria del partito e che ha avuto il mandato appunto a seguire e lavorare dentro questo gruppo. Però noi partivamo con un ragionamento diverso, cioè intanto abbiamo anche notato, fatemi fare questa premessa, qualcuno tentava di escluderci e qualcuno ci voleva invogliare a non partecipare eccetera, ma sostanzialmente non era questo, siamo capaci anche a resistere a queste cose. Allora il nostro problema qual è che era? Il nostro problema è che intanto in queste primarie io voglio capire, noi vogliamo capire se vogliamo fare l'alternanza o l'alternativa al centrodestra. E in queste parole c'è dentro un ragionamento molto più ampio, ha uno spessore di questa natura. Perché fare l'alternanza al centrodestra, di questo centrodestra che sta governando, sta terminando di governare questo mandato, è molto semplice, non c'è tanto, perché più bassi di così, limite al peggio non è mai finito, ma però credo che abbiano toccato anche abbastanza il fondo. E io credo che su questo ci dobbiamo misurare tutti a creare le condizioni per un'alternativa. E io cito questo proprio perché io voglio capire l'alternativa anche nelle primarie. E allora, se queste sono le primarie senza programma e noi crediamo nelle primarie del programma, cioè e allora io, come si fa a candidarsi, o potevamo anche candidarci noi, ma invece noi credevamo in un ragionamento diverso. In sostanza, fin dall'inizio, ricordatevi le parole, io ho seguito con molta attenzione perché ero molto interessata e molto coinvolta sul punto di vista della partecipazione di queste primarie. Si diceva dobbiamo creare, tanto chi si riferiva a Napoli, chi si riferiva alle primarie a Torino, ma però in sostanza quello che ci vedeva in una maniera chiara e precisa era creiamo l'effetto Pisapia anche a Como, cioè in sostanza quella parte della società, espressione, anche movimenti, associazioni e quant'altro, quella parte della sinistra si riconosceva in un quadro come Pisapia è riuscito a fare, che prendeva una parte del PD, tanto per intenderci, fino ad arrivare a Leon Cavallo, riuscito a mettere insieme questa cosa qui. A Como siamo in queste condizioni o poteva fare? Ecco perché la Federazione della Sinistra fino adesso è stato un passo indietro, proprio perché emergesse una cosa di questo tipo. Oggi abbiamo qualche difficoltà a dire che siamo su questa strada qui, abbiamo qualche difficoltà. Con questo non vuol dire che non è servito a niente, invece tutt'altro, serve sempre la partecipazione e alla riflessione. Perché io credo proprio quando si parla su questa questione, noi dobbiamo ragionare per mandare l'opposizione al centrodestra. Ma come ce lo mandiamo? Non è che noi ci dobbiamo sostituire al centrodestra con persone che si presentano magari anche in una maniera molto estetica, migliore, eccetera. Noi dobbiamo presentarci con dei programmi veramente che siano alternativi. E allora, questo com'è che si fa dentro in questo quadro delle primarie a conoscere questo? È molto difficile per adesso, perlomeno per adesso. Come ci si fa a candidare su questo? Anche noi avevamo pensato di presentare un candidato nostro, ma per sull'altare dell'unità di un centro-sinistra che vuol fare l'alternativa, noi abbiamo fatto un passo indietro, perché il partito eravamo pronti a candidarci come un candidato ufficiale come la Federazione della Sinistra. Abbiamo fatto un passo indietro perché cercavamo questo. Non si è raggiunto questo, dobbiamo prendere atto a oggi, purché che ci sia qualche miracolo, che qualcuno, come diceva, perché non ne vedo di candidati di quelli già espressi che vadano su questa direzione di essere Pisapia dal Comasco, tanto per intenderci, cioè, non lo vedo sul punto di vista dell'aggregazione, sul punto di vista della capacità programmatica, non lo vedo sotto questo. Allora, il nostro obiettivo è quello di andare avanti col centrodestra, cioè di fare l'opposizione al centrodestra. Scusate, chiudo di gira filmato. La nostra idea è quella di fare uno schieramento di centro-sinistra per abbattere il centrodestra. Scusate, sì, no, beh, questo. Allora, noi in questo passaggio crediamo. Per favore. In questo passaggio crediamo di essere, voglio dire, attenti a quelle che si muove, eccetera, ma crediamo, dopo finito, perché oggi non so cosa ha in mente i vari Lucini, i vari Magatti, i vari Iantorno o la Gisella Introzzi. Allora, siccome oggi non si è in condizione di sapere quale programma esprimono, come si fa a ragionare in questi termini? Ecco perché io credo che dopo le primarie, perché le primarie sotto il punto di vista dell'espressione, guardate che non è un passaggio di poco conto, io vi posso fare un esempio così ci capiamo senza girare intorno. E se mi capita quel candidato che mi dice che per la Cad Industria, voi sapete la battaglia che c'è stata sulla Cad Industria, è su due punti fondamentali. Di fronte a una situazione che non era difficilissima in termini economici, era una situazione, voglio dire, da tenere sott'occhio, da monitorare in termini economici, ma era possibile salvare, voglio dire, la situazione in termini dignitosi, è quella di non dare in appalto le cucine e quanti altri servizi, con il risultato che oggi c'è una situazione veramente precaria sotto il punto di vista della qualità e anche della quantità, per intenderci, e allo stesso tempo voler cambiare il contratto ai lavoratori. Allora, per risolvere un problema che a nostro avviso, voglio dire, allora in questo quadro, se vogliamo fare l'alternanza, ci sarà chi continuerà a lasciare lì l'appalto esterno e tentare di cambiare il contratto dei lavoratori. Siccome io sono per l'alternativa, io credo che la parte dei lavoratori, e allora se io domani, e siccome la mia franchezza e la mia lealtà, perché io credo che quando si partecipa a una coalizione bisogna essere leali, non posso accettare il fatto di partecipare alle primarie dove si dice in una maniera incondizionata devo accettare quello che vince, perché la lealtà invece è un'altra cosa. La lealtà, io ti sostengo con lealtà, ma però tu ti devi anche confrontare con me. Allora noi pensiamo questo passaggio lo vogliamo fare dopo, con chi ha vinto, per mandare all'opposizione il centrodestra e per portare al ballottaggio, perlomeno se riusciamo, il centro-sinistra. Noi non ci chiamiamo fuori di questa partita, noi vogliamo essere parte essenziale, quel contributo che possiamo dare per mandare a casa questo, perché ne abbiamo piene le scatole. Detto questo, allora io credo che bisogna misurarsi sui vari problemi che abbiamo. Fino adesso abbiamo volato in alto, anche le paratie, e chiudo, se sono stato troppo lungo mi scuso con tutti, chiudo anche sulla questione delle paratie. Allora, le paratie, noi sappiamo il punto dove è, ci sono tanti che pensano è un non ritorno, beh, ormai è una disgrazia, portiamola a fine fondo. Io credo che il prossimo anno siamo in una situazione ancora di stallo, ci sono ancora delle perizie, una serie di condizioni, eccetera, l'azienda che forse fallisce o non fallisce, eccetera, c'è una situazione di questo tipo. Noi dobbiamo dire chiaramente che se vinciamo noi le paratie non si fanno, e l'acqua, il livello del, perché il problema è alzare il livello dell'acqua di 70 centimetri, non ci sono altre strade, perché è questo, perché 70 centimetri dell'acqua per vendere l'acqua, questo è il problema, che formicono apposta questa città, il centrodestra ha accettato questo. Noi dobbiamo essere quelli che, io dico l'alternativa, è quella di dire no a queste cose. Se invece l'alternanza dice, beh, ho preso, vi faccio questo esempio perché è questo è il clima, beh, ormai li hanno iniziati e li finiamo. Beh, io credo su questa strada non ci saremo e andremo anche da soli, ma noi siamo perché dobbiamo andare tutti insieme e faremo il massimo sforzo possibile. Proprio perché non nascessero degli equivoci, noi non parteciperemo a questa, in termini, voglio dire, come organizzazione di partito, poi dare una mano, come, voglio dire, poi vediamo questo lo vediamo sotto il punto di vista delle cose che emergono. Ecco perché noi siamo interessantissimi, ma però in questo momento credo che le primarie di programma, a mio avviso, sono ancora, voglio dire, da venire sotto questo aspetto. Ecco, siccome non vogliamo partecipare, la dico con una battuta, ma spero che nessuno, siccome non è un concorso di bellezza, io credo tutti siamo interessati a queste cose. Io volevo dire una domanda, se lo posso permettere, una domanda, no? Tu hai parlato di primarie dei partiti, di coloro che hanno partecipato, però a me interessava avere una tua valutazione, no? Sulle esperienze, sulle idee che sono venute anche da questa assemblea, no? Che è partita innanzitutto per richiedere le primarie vere partecipate. No, aspetta, è partita per quello. Poi ha giustamente posto alti e si è riconosciuto in altre problematiche, no? Che è quella di ricreare anche a Como una rete, no? Tra soggetti diversi, in modo che possano confrontarsi. Almeno per me questa è stata una cosa che è importantissima, che mi ha fatto anche poi, ma penso anche per altri, un confronto tra soggetti diversi che però a Como sono sempre stati separati, che per mandare all'opposizione il centrodestra, credo però debbano sapersi riunire, no? Debbano sapersi confrontare anche con tutto quello che hai detto tu, che è giustissimo, perché anch'io sono per l'alternativa, non per l'alternanza, dico, parliamoci chiaro, no? Dopo dovremmo riuscire a capire come vogliamo fare l'alternativa, con chi, eccetera eccetera, certo. Perché se poi la vogliamo fare con tutte le persone che sono qui presenti e basta, dico, sono tutti persone che io stimo, tutti simpaticissime, alcune le conoscevo, alcune no, però non faremo mai l'alternativa, no? Dal punto di vista così, io dico, questo discorso che io vi ho visto un po' assenti, non tanto dalle primarie, no? Perché avevo anche detto, no? Se non sbaglio al telefono, ho parlato anche con la Lina, ho parlato con altri così, no? Secondo me invece, perché era importante la presenza di tutti, ho detto, importante quello che hai detto anche tu stasera, poi posso essere d'accordo, non essere d'accordo, ma tutto pieno di rispetto. Noi vorremmo anche tramite i tavoli tematici, anche tramite quello che ha detto lui, forse poi avremo delle cose diverse, dei modi diversi di dirlo, no? Così, ma io sono d'accordo con quello che ha detto lui, no? Capito? Per me il ruolo che deve avere anche questo è quello di riuscire poi a allargare sempre di più, no? Ecco, era la mia domanda, era questa. In che modo, oppure non c'è bisogno di rispondere, ma, no? Dico, ma io, scusa, proprio per questo, siccome non partiamo dall'anno zero, certo. Qui degli esponenti che erano giù dalla giunta, un movimento che si era creato in quel momento, mi sarebbe piaciuto che si facesse una riflessione di questo, tra virgolette, movimento che era molto importante, la presenza, era lì tutte le sere, i consigli comunali, e hanno capito quanto ci si rompe tantissime sere, poi qualche sera invece ti appassiona. Ma sostanzialmente, per esempio, mi sarebbe piaciuto su quella opportunità che abbiamo perso durante la questione delle paratie. Io questo credo che non sia una cosa campata in aria, è una cosa che dobbiamo calare nella nostra realtà, e se queste cose qui hanno un valore le dobbiamo mettere in campo. Se non hanno valore, comunque ognuno poi dopodiché si ricrea le sue condizioni un'altra volta per riciclarsi. Il sottoscritto non è disposto, perché io non lo so cosa farò, ma certamente non starò più, non starò lì altri 5 anni, qualora dovesse essere eletto, qualora mi ricandido, non starò lì 5 anni altri, perché noi dobbiamo anche imparare su questa cosa qui. Niente, scusate. No, grazie. Sì, non c'è nessuno. Se qualcun altro vuole intervenire, lo dica. Ma certe volte per misurare quello che accade qui fra di noi bisogna guardare anche un po' all'esterno. Devo confessarvi che io ho avuto nostalgia di Parma, vedendo cosa è successo, vedendo la tempra che quei cittadini hanno dimostrato di avere, per cui ogni sabato e ogni domenica, da un anno a questa parte praticamente, hanno continuato a manifestare la loro contrarietà all'amministrazione di destra e alla fine hanno ottenuto un risultato. Io mi sono chiesto, ma noi saremmo stati capaci di fare una cosa del genere? Vi rispondo sulla base di quello che ho visto succedere in questa assemblea e vi rispondo di no, che non saremmo stati capaci, come questa assemblea, che pure ha grandi meriti, nel senso che ha suscitato una discussione, ha portato avanti, come dire, l'esigenza di valori, di partecipazione, eccetera, però poi non è stata, secondo me, all'altezza di gestirli. Forse, diciamo, forse pretendevamo troppo, magari anche noi stessi, da noi stessi. No? E però, diciamo, qual è la situazione che io vedo, per cui anch'io condivido un po' le parole di Donato o di Giudice, vedo che a questa assemblea si è svuotata di colpo, cioè anche la presenza stessa, come diceva Marco, non perché non si è arrivati all'ultimo momento a organizzare, a parte il fatto che per esempio mio figlio non è stato neanche avvertito tempestivamente, quindi stasera non ha potuto venire perché giù è all'università sostanzialmente. E detto per inciso, non ha ancora sciolto la riserva, quindi si riserva magari di far sapere a tutti se si candida o non si candida. Ho sentito che qui già corre, no, ma tanto è bruciato, c'è tutte queste stupidaggini. Qui ciascuno deve decidere per se stesso. Ma torniamo al punto. Che cosa è successo? È successo che a un certo punto questa assemblea, che pure si è data da fare, ha creato un terreno di democrazia in cui, secondo me, diciamo, anche organizzazioni storiche grosse tentano anche di, come dire, di lavarsi il volto sostanzialmente, cerchiamo di essere chiari, no? Avete visto che di colpo, non appena, diciamo, si è creato il terreno, questo terreno immediatamente è stato saltato da questi candidati per andare a fare altre cose legittime. Ma il problema qual era? Il problema, appunto, quello che un po' diceva anche Supino adesso, è che noi dobbiamo costruire dei contenuti, non soltanto dei metodi. Se costruiamo dei metodi che non servono, dei contenuti, voglio dire, scusate, ma che cacchio facciamo? Cioè, voglio dire, il problema è appunto quello, io ho insistito fino dai primi momenti, dai primi interventi, non ne ho fatti tanti, ma ho insistito sul fatto che è importantissimo, come dire, riuscire a creare un rapporto che oggi non esiste fra la città, fra i cittadini, i loro bisogni, no? Perché poi i cittadini sanno benissimo cosa vogliono, perché fanno i conti tutti i giorni con dei bisogni, no? Fra i bisogni dei cittadini e l'amministrazione, una nuova amministrazione, cioè cominciamo a dire non l'amministrazione, una nuova amministrazione, perché scusate, per rifare la situazione che c'è attualmente nella città, io non ho nessun interesse sostanzialmente e non vedo quale vantaggio potrebbe avere la città da una situazione che grosso modo vedrà, diciamo, la destra spaccarsi in varie parti, ma è una destra che conta, è una destra che ha molto potere, diciamo. Qui invece, come dire, il nostro discorso che di tentare di costruire fin dall'inizio già dei contenuti. E quindi dice, ma tanto poi ci pensa il candidato. No, questo è sbagliato, i contenuti, è, diciamo, questa assemblea era nata proprio così, arriviamo a individuare dei metodi e dei contenuti. Ora, per certi versi i metodi in qualche modo abbiamo forse contribuito a individuarli, certamente ci sono state delle imposizioni che a me personalmente non sono piaciute, l'ho dichiarato, delle imposizioni, è chiaro. Già la tempistica di questa cosa è un'imposizione, è stata un'imposizione. Vabbè, lasciamo stare la cosa. Io dico che a un certo punto proprio questo svuotarsi dell'assemblea e ciascuno raccoglie Quale sarà il punto di incontro? Quando ci sarà il punto di incontro? Chi andrà a discutere dei contenuti? Quali contenuti? Cioè, il punto è questo, che noi siamo arrivati qui, e io secondo me l'avevo detto fin dall'inizio, siamo arrivati qui non avendo il becco di un contenuto reso comune, intendiamoci, non è che ciascuno di noi c'ha in mente dei valori, ha in mente, probabilmente ciascuno di noi si è interpellato probabilmente a un progetto, un programma di amministrazione, ma come assemblea, come primarie vere, non è che noi, io non mi sono posto, come non dovevamo fare soltanto la levatrice di un esperimento, no? Di un esperimento di tecnica democratica, no? Ma dovevamo fare da levatrice, mantengo questa immagine, di progetti nuovi che vengono fuori. Ora, se vi chiedono quali sono i progetti nuovi che sono venuti fuori fino adesso, siete capaci di rispondermi? Chi ha tirato fuori dei progetti nuovi? Sappiamo cosa dice Lucini? Io sono andato a sentire la sua conferenza stampa, ho fatto una conferenza stampa ordinata, cioè non voglio che la prendiate come una critica, però anche lì, diciamo, ha detto quello che pensava lui, come avrei potuto dirla io, come l'avrei potuto dire Danilo o qualche un altro, e così gli altri candidati, diciamo. Quindi qui siamo già spiazzati praticamente. Questo fatto vi descrive un'assemblea che ha perso di potere, di potere reale, perché ecco, quando l'abbiamo avuto quel potere reale siamo serviti a, come dire, dare una faccia pulita a una cosa che poteva anche essere repellente per i cittadini. Cioè, ricordiamoci che non c'è un grande amore in questo momento fra cittadini e politica, diciamo, e quindi anche amministratori. Quindi io, cioè, per riprendere, diciamo, anche l'acuta analisi che ha fatto Marco, io la vedrei, però la sposterei un po' più avanti, non è soltanto, appunto, non andiamo lì a fare una tecnica, cioè, io direi che a questo punto possiamo proporre e chiedere al comitato organizzatore di cominciare a discutere di contenuti, di cominciare, prima ancora di andare fuori a parlare agli altri, riuniamo questi candidati che vanno anche a nome nostro, perché c'è anche questo da dire, sono candidati che si presentano anche a nome nostro. Allora riuniamo i candidati e discutiamo insieme, perché c'è qualcosa che ce lo proibisce, o dobbiamo subito andare alla peggio per vedere, appunto, per vedere poi se siamo d'accordo su qualche cosa, oppure se non siamo d'accordo, cioè per vedere se da questo primo incontro interno, io lo vedo ancora interno, non scaturisca per caso una scintilla più forte, non del solito programma di così. Adesso poi non voglio mettere le pietre, le mani avanti, verranno fuori degli ottimi programmi, però vorrei anche che non mi piovessero sulla testa, sinceramente. Io, per la parte mia che mi riguarda, dico, io non rinuncio alla mia autonomia di cittadino che vuole decidere, chiaro? Quindi se voi volete delegare, delegate, io non ci sto a delegare, voglio intervenire per contribuire, non voglio decidere per gli altri, ma voglio contribuire per decidere. Quindi ecco, io vedrei prima ancora della mia proposta, e che prima ancora di andare fuori a certamente parlare nei quartieri, per esempio parlare nei quartieri, il punto della democrazia, e che cosa per esempio intende fare questa assemblea o quelli che vanno a essere i candidati, dicendo che sono candidati anche perché partecipano a una cosa a cui abbiamo contribuito, no? E cosa intendono fare con i consigli di quelli che chiamano consigli di circoscrizione? Sapete che sono stati aboliti, mi sembra, no? Correggetemi, ci sono due consiglieri comunali, e non vorrei dire stupidaggini. Nelle prossime elezioni non verranno più. No, nelle prossime elezioni non ci sono più. Beh, questo cosa vuol dire? Li hanno aboliti perché? Li hanno ritenuti inutili? Sì, hanno ritenuti inutili quegli organismi di democrazia ridotti a parvenza di organismi di democrazia. Anch'io penso che quelli erano inutili, fatti così non servivano a niente, ma invece è uno strumento importantissimo. La partecipazione nasce da lì. Chiamiamoli i consigli dei saggi, che ne so io, la boulé, quello che volete voi. Però chi ha detto che il quadro normativo nel quale dobbiamo identificarci è quello che ci viene costruito anche a livello nazionale, e che il quadro normativo a cui dobbiamo adeguarci è una concezione di un consiglio comunale dove il sindaco è un prefetto sostanzialmente. Anche sono tutti problemi, questi sono i problemi veri, secondo me, che ci devono accompagnare, io credo, e non pretendo, vi dico quello che io penso, che ci devono accompagnare lungo il tragitto. Quindi, per non perdere la mia autonomia, io dico no, non ci sto a venire a, come dire, a fare un ruolo anche, ecco, più intelligente del presentatore, come ha illustrato Marco. E non delegherei neanche un giornalista, io sono un giornalista, ma non delegherei neanche un giornalista, nel senso che qui l'assemblea ha gente che è in grado di parlare, dire, perché ormai ci conosciamo, quindi tante cose probabilmente sono diventate anche comuni, quindi può benissimo accadere che nell'assemblea, invece che un giornalista che cattivo pensi, non si sa, ma che ci vada a parlare Claudio, Marco, eccetera, e che dica e rappresenti un po' tutto quello che ci siamo raccontati fino ad oggi. Ecco, io dico, noi dobbiamo colmare un vuoto in cui gli altri l'hanno riempito con i loro valori organizzativi, e io dico, in quei valori organizzativi io non mi riconosco, sinceramente, sono, chi è che lo dice? Forse Supino ha detto, sono vecchi, è vero, ha ragione, cioè non è un estremista Supino quando dice questa cosa, constata tranquillamente che queste assemblee e questi organismi partoriti dalla mente di una della sinistra, un tal Bassanini si chiamava, la riforma Bassanini, chiamiamola riforma, ma diciamo che era una controriforma, altro che uccidere le uniche assemblee che funzionavano veramente nel nostro paese, è stato un grande merito, un grande merito. I consigli comunali funzionavano, si perdeva tempo, ma funzionavano, per Dio, e c'era anche, non c'era uno che decideva per tutta una città, non c'erano tre che decidevano per tutta la città, comunque c'erano dei confronti veri, degli scontri veri che poi si proiettavano all'esterno. Quindi ecco, io ho in mente tutte queste cose quando guardo questa assemblea e quando penso ai cittadini di Parma, e dico, vorrei andare a Parma, vorrei portare qui Parma, vorrei portare qui Pisapia, però non possiamo andare avanti sempre così, vorrei portare qui, vorrei andare là, vorrei portare... Dico, cosa possiamo fare noi per creare delle condizioni diverse per fare la politica in un modo più intelligente? Ho finito, vi chiedo scusa se sono stato lungo. Un'ultima notizia. Se volete, è stato pubblicato su niente, dopo mi verrà in mente, un intervento di Luca, di cui poi vi farò sapere, che interviene sulla vicenda Berlusconi e la vicenda Travaglio, e niente, poi vi darò gli estremi. Ho finito. Volevo solo fare una riflessione. Prima si è parlato delle paratie, opera che non condivido, sia chiaro, e che non si vuole portarle avanti, però questa opera è a metà, giusto? Cioè in questo momento è incompiuta, c'è un'opera incompiuta in questo momento, che sono le paratie, così come altre opere, e dei soldi sono stati spesi. Di questa opera faraonica, cosa vogliamo farle? La lasciamo lì incompiuta? La demoliamo? C'è anche questo, perché è giusto essere alternativi. Ma poi bisogna avere, siccome il comune ha pochi soldi, bisogna avere le idee chiare. Esatto, in modo tale da non sprenderne gli altri, perché sennò rimane lì lungo l'ago fermo, e quando uno arriva e dice. E adesso? La passeggiata, cosa facciamo? Le paratie, sempre questo. Cioè, controlliamo. Il sistema fognare che va dentro nel lago. Bisogna, queste sono quelle che bisogna portare. Esatto, però c'è queste vasche che sono lì ferme. Sono già le vasche. Cosa facciamo di queste vasche? Sì. Domanda che io mi pongo, chi va su si troverà con questo progetto a metà strada, con tutti i problemi economici, finanziari, stanno indagando sopra, denunce sopra denunce, è un problema non di facile soluzione, come penso altri problemi, quindi giusto essere alternativi, ma guardare anche un po' la, la storia vecchia, solo questo volevo dire, poi il resto niente. Scusate, mi è venuto in mente, è pubblicato su Micromega, però non, non in cartaceo, ma su Micromega che è sull'Orbit. C'è qualcun altro? Luca, poi... Sì, capisco la tentazione al depresso, eccetera, però io sono convinto di una cosa, che gli spazi di intervento, gli spazi, noi li abbiamo avuti e in questi due mesi non è che ci siamo fermati. Questa cosa per cui noi abbiamo di fronte alla questione del primario, abbiamo come... avuto come obiettivo di presentare il candidato eccetera, in realtà non era questo l'obiettivo iniziale, eh? Ce lo dobbiamo dire chiaramente, era cercare di far entrare perlomeno in molti di quelli che sono rimasti adesso, e io ringrazio soprattutto Danilo di esserci stasera, perché mi dà ha dato una disponibilità che altri che sostengono ad esempio in Trozzi questa sera non hanno dato, e io noto questa cosa la faccio pesare e non mi piace questa cosa, perché evidentemente non ci siamo capiti dal principio qual era il ruolo di questo, di questa assemblea. Io sono pronto a portare avanti il discorso dei tavoli tematici, mi do la disponibilità come cittadino non residente e di più, anche se non ho come referente un candidato. Ok, io credo che da questo punto di vista non siamo pochi qui, e non è che non abbiamo fatto nulla, perché anche le elaborazioni che sono venute fuori in questi giorni, poi magari non sono elaborazioni professorali, non sono degli elaborati storici che rimarranno nelle menti dei comaschi nei prossimi 80 anni, però diciamo che sono delle sollecitazioni. A me piace ad esempio la sollecitazione che ci dava Donato Supino rispetto alle risposte che possiamo dare rispetto ad alcune tematiche. Ha posto due questioni e ha detto: come io, mi piacerebbe capire il candidato che si presenta, i quattro candidati che avevamo davanti, cosa pensano rispetto a questa cosa. Come del resto è vero che non è semplice dire di no, perché a un certo punto bisognerà dire di no e pagare anche delle penali rispetto a quella cosa lì, rispetto alle questioni relative. Quindi dovremmo porci in modo un pochino, dal punto di vista dell'assemblea, quello che ci rimane da fare, ed è il passaggio più importante, perché è il passaggio più disinteressato, perché se noi avessimo un candidato sarebbe un passaggio interessato, invece non ce l'abbiamo. Siamo liberi di avere fantasia da questo punto di vista ed entusiasmo. Il passaggio che dobbiamo fare è quello sui tavoli, cioè dare il nostro contributo a questi tavoli, e spero che la Fondazione comunque e FED non si tirino indietro anche su questa cosa. Credo che le disponibilità ci siano. I tavoli che abbiamo in mente sono usciti in questi giorni, abbiamo sottolineato quelli che erano già stati presentati in precedenza, e ve li dico: uno sull'urbanistica, uno sulla democrazia e i diritti, uno sull'ambiente, uno sulla sostenibilità, uno sulle possibilità della cultura, uno sulla gestione della macchina amministrativa in Comune di Como, uno sulla demografia sociale, e poi l'ultimo tema, che è quello che ho proposto io, che era quello relativo a quale può essere il ruolo dell'ente locale nella crisi economico-finanziaria attuale, con tutte le ripercussioni di tipo sociale che si hanno sulle persone. Ok. Ovviamente sono troppi 8 tavoli, quindi noi arriveremo a semplificare in 4 tavoli, e la proposta che andremo a fare domani è che questi 4 tavoli, all'elaborazione di questi 4 tavoli, partecipino, secondo me, non solo quelli delle primarie che sono rimasti qui, ma anche quelli che sostengono i candidati. Per noi è importante, anche per influire, io non è che lo facciamo gratuitamente questa cosa. No, è la nostra possibilità di influire sul candidato futuro. E quindi noi apriamo questa questione dei tavoli tematici pensando e sperando che l'esperienza dell'assemblea, che io personalmente giudico in modo molto positivo, in tutti i modi, a parte gli scazzi, i personalismi, eccetera, però quello c'è da tutte le parti, ci sono anche a Parma, credo, i personalismi, noi chiediamo di confrontarci e di portare all'interno, attraverso i tavoli, anche ai candidati alcune esigenze. La finalità di questi tavoli è avere una chiarezza maggiore su quello che sarà il programma poi del centro-sinistra, che sarà poi un programma comune. A me piacerebbe che ad esempio ci fosse chiarezza su alcune cose, ad esempio sulle due cose che diceva Donato Supino, mi piacerebbe che ci fosse chiarezza, che ci fosse una risposta chiara in merito a quella cosa. Perché se no tutto quello che abbiamo messo in campo, e sapete che io speravo in un percorso anche più radicale e quindi di rottura, spero che questo discorso più radicale di rottura comunque si integri con qualcuno di questi dei candidati e che il candidato finale tenga conto di questo percorso. Il candidato finale, dietro, avendo comunque l'esperienza di primaria vera e per conto dietro, secondo me, non potrà andare per i cavoli suoi. Certo. Non potrà non acquisire quello che noi ci siamo detti in questi tavoli. Vogliamo che questi candidati tengano conto di alcune esigenze che non sono solo dei cittadini, ma sono di quelli che hanno ricominciato a far politica. Molti di noi non facevano più politica da anni. E non si sarebbero interessati, l'ho detto anche la volta scorsa, a questo percorso se non ci fosse stata primaria vera per Comune. Molti di noi non avrebbero colloquiato con questi candidati. Adesso sta ai candidati cogliere l'occasione, secondo me, di confrontarsi con persone che altrimenti non avrebbero cercato di influire e non vi avrebbero detto nulla. Vuoi dire qualcosa? Io, per carità, sono molto contento di essere qui, ma mi sembra assolutamente fuori posto chiedere qualcosa. Io credo che le cose che ha detto Luca siano sacrosante, cioè io sono qui in realtà per questo. Sono d'accordo anch'io. Qualcun altro che ho, scusa, perché ho visto che non interviene nessuno. Qualcun altro che vuole intervenire? Voglio... Non fermiamoci su questo, anzi. Patrizia, tu stavi dicendo prima di entrare, no? Che hai già cominciato, cioè anche rispetto a questo discorso, rispetto ai tavoli. Penso che sia importante questo dei tavoli tematici, perché è da lì che potremo mettere le basi per verificare se questi candidati accolgono delle richieste su questi temi. Non c'era secondo me il tempo, sì. Avendo iniziato un percorso a giugno, cos'era? Le prime volte che ci trovavamo, sì. Non c'era la possibilità, il tempo materiale per poter mettere in piedi il programma prima, come sarebbe stato forse anche giusto, cioè la tempistica giusta, non c'è stato il tempo per fare questo. E quindi secondo me è già cara grazia che siamo riusciti a arrivare adesso, aver parlato di un po' di cose, se riuscissimo veramente a stimolare questi tavoli, in questi tavoli a proporre questi temi e chiedere ai candidati su che cosa si impegnano, su quei temi, che risposte ci danno e su che cosa si impegnano a fare, noi avremo modo per di svolgere un ruolo che è quello di creare in questi tavoli delle idee per il programma. È forse il massimo che potevamo fare, cosa potevamo fare in 3 mesi con in mezzo un'estate, forse iniziando un anno prima. Potevamo fare di più, è mancato secondo me Voglio chiarire una cosa rispetto ai tavoli, Patrizia. Noi la proposta che facciamo stasera è questa dei tavoli e la porteremo domani sera. I nostri due rappresentanti, se viene accettata questa proposta, la porteranno, e sarà una proposta che noi faremo al resto delle primarie, ai due esponenti per ogni movimento produce un candidato per le primarie, e sperando che domani venga recepito questo discorso. Non è così automatico, prima di tutto deve passare qui e poi deve essere proposto. Per essere un pochino più pratici e dire che cosa facciamo e qual è il percorso futuro. Il percorso è, se passa una concezione di questo tipo, domani noi la proponiamo. Ecco, i quattro temi che allora tu hai detto prima della volta. È dura semplificare. La questione economica, io credo che la questione economica finanziaria e quindi con dentro sia l'analisi di tipo economico su quello che succede e qual è il ruolo dell'ente locale, in questo caso del comune, più la questione della macchina amministrativa, noi non abbiamo ancora analizzato bene e dobbiamo attivarci a farlo bene per capire come funziona la macchina amministrativa, perché se noi dobbiamo dire di no, dobbiamo capire a che cosa diciamo di no. Okay. Come è strutturato il bilancio del Comune di Como? Se noi siamo d'accordo sul fatto che vengano reintrodotte le messe pubbliche alla casa industria, dobbiamo capire come regge il sistema da questo punto di vista. Io ci credo, e quindi bisognerà prendere da qualche altra parte, bisognerà capire dove alcuni soldi sono stati utilizzati, e questo ci possono aiutare soprattutto quelli che sono già stati in Consiglio Comunale. La seconda cosa è la parte culturale. Ragazzi, questa città, oltre alla Notte Bianca, alla Città dei Balocchi, alle mostre di Gatti, eccetera, non fa assolutamente nulla per la cultura, e soprattutto vorrei provocare quello che avviene normalmente. La cultura locale, c'è il mio amico Fabio Carino, lo sa benissimo, la cultura locale da quando c'è la Lega. Alla Lega non gli è fregato un tubo della cultura locale, su questa cosa bisogna dirlo forte. Quando si tratta di storia locale non se ne occupa, se ne occupano quelli che sono interessati a livello proprio quasi di hobby a un certo punto. Però non c'è stato non ci sono stanziamenti con continuità, non c'è una logica di riscoperta della cultura locale. E di fronte a un partito che si dice legato al locale, cavolo, questa cosa bisogna dirla con forza. Noi che siamo invece legati al popolo, al popolare, era questa la vecchia concezione della sinistra storica, dobbiamo forse riscoprire anche che cos'è il popolo, no? In modo non demagogico. Scusate se sto facendo un po' cazziato. L'altra cosa è la questione urbanistico-vidabilistica e dei trasporti, e l'ultima cosa fondamentale, che in questi giorni tiene banco ad esempio a Milano la questione ambientale, e lì c'è dentro tantissimo, guardate. Io credo che questi quattro cose sono già, non dobbiamo fare un programma, diciamo, da non quello di 800 pagine dell'Ulivo, ecco, non ho in mente quella roba lì, l'Unione, l'Ulivo, cioè, cambiano continuamente il nome. Claudio, vuole intervenire? Io tanti anni faccio politica, mi sono spesso occupato di ideologia, no? Però devo constatare che venendo qui spesso mi è venuta la voglia di iscrivermi a un partito, perché qui siamo tot capita, tot sentenzie. Che ci sia un'omogeneità in questo ambiente, io ve lo nego, no? Se noi dovessimo fare un progetto ci scanneremmo, perché non la pensiamo, per ragioni storiche, ideologiche, politiche, di esperienza, in un modo uguale. Siamo molto diversi. Io ho sentito degli interventi pre-aristotelici, applauditi peraltro, no? Persone che addirittura hanno una posizione politica pre-aristotelica, insomma, no? Non sono omogeneo con loro, no? Sono peggio dei leghisti per me costoro, no? Uno che non ha neanche una visione politica o disprezza l'ideologia, queste cose qui, insomma. Quindi, d'altra parte, in 5 minuti, no? Uno come può esprimere il suo opinione? Per esempio, per me un aspetto fondamentale è il rapporto fra Como e l'Expo. A qualcuno fa schifo l'Expo, a me no, perché il rapporto con l'Expo è una delle condizioni per non diventare zona degradata. No? E siccome a Lugano si riuniscono una volta al mese e a Como il Comitato dell'Expo non si riunisce mai, voglio sapere di qui ai 15 questa occasione se la coglieremo o no. Ma poi sono tutti veri gli altri problemi, dalla viabilità, no, all'urbanistica, no, eccetera, no? E poi c'è anche una questione d'ordine, anche tra, dico, ci sono posizioni radicali, alcune massimaliste, posizioni riformiste e posizioni liberali in questa stanza. La sfido chiunque a mettere d'accordo, cioè io non credo che noi siamo in grado di produrre un progetto, no, che veda il consenso di tutti, o sì, no? essere, vi sfido almeno, no? No, perché non è possibile. Quindi direi che quello che abbiamo fatto fino adesso è il massimo che potevamo fare, no? Nel senso che abbiamo scosso, siamo riusciti ad avere le primarie, purtroppo solo al comune, non negli altri comuni tipo Cantù, Erba, le provinciali, però direi che è un compito che noi dobbiamo mantenere. Semmai, se abbiamo esigenze elaborative, bisogna fare un laboratorio politico con delle persone che studiano, pensano, eccetera. Luca ci aveva dato un'offa molto importante, che è quella del secondario in provincia di Como. Luca sostiene, secondo me ha ragione, che non possiamo fingere che non esista più il secondario a Como e puntare sul terziario e sul turistico. Questa era un'idea forza che Luca ci ha proposto, essendo un economista e lavorando con un'equipe di economisti che sono gli unici che fanno ancora le analisi strutturali sui rapporti di produzione. Questa è un'idea forza che secondo me va portata avanti. La salvaguardia del Como deve vivere nel contesto della provincia, non è la polis di Atene, no? Ai tempi della guerra del Peloponneso. O Como vive nel contesto della sua provincia, la sua provincia è fatta di una miriade di imprese secondarie estremamente importanti che sono quelle che danno la ricchezza. No, non si può avere un'economia terziaria non supportata da un'economia secondaria, se no si crolla, si arriva in una fase di declino generale. E questo direi che è un tema, per esempio, che ha portato avanti anche Constituri, no, sui rapporti di produzione, quello che è rimasto, e pare che in provincia di Como sia rimasto molto. Quindi direi che se vogliamo elaborare dobbiamo renderci anche un po' omogenei, insomma, no? E poi non so se avremo quei tempi, li avremo, perché è anche probabile che arriviamo prima alle elezioni politiche e poi a quelle amministrative, no? Così stando le cose, no? Dalle notizie di oggi potremmo trovarci, però non smobiliterei, perché potremmo fare le primarie anche per le politiche. Delle primarie presocratiche, ma non pre-aristoteliche, no? Beh, dopo ce le spieghi. Non ti prendo. Comunque, per quello che ho capito negli ultimi due interventi, allora facciamo, parla prima tu. No, ecco, nell'elenco che hai fatto Costituzione ha saltato, secondo me, quello il problema fondamentale della partecipazione. Sì, infatti. Stato... quindi, diciamo, la semplificazione che lui ha fatto non mi trovo d'accordo, perché la questione della partecipazione richiede una riflessione e anche una capacità di innovazione, che noi non possiamo rivolgerci all'attuale legislazione, che è una legislazione concepita in un momento in cui è stato respinto l'apporto della legge. Ma dobbiamo pensare, rivolti al futuro, pensare come questa città vuole invece differenziarsi dal punto di vista della partecipazione. Sono d'accordo anch'io. Proporre, avevo già fatto questo argomento, mi metto, diciamo, al tavolo, spero insieme ad altri che vogliono affrontare questo problema, faremo delle ricerche, vediamo un attimo come hanno risolto questo problema anche in altri paesi, e poi se abbiamo delle soluzioni tenere fuori. Però è un argomento molto molto importante, non è l'economia, certo, sono tutte cose importantissime, ma anche come si contribuisce all'amministrazione di questa città in modo strano. Sì, io sono tutto d'accordo, sono d'accordissimo, anche con un tema che mi interessa. Certo. Prendendo spunto dal tuo intervento, bisogna partire, e prendendo spunto anche dal suo intervento, quelli di oggi, partire da due analisi, dai problemi che ha Como, quello che dicevi tu prima, capire la situazione reale, fare una fotografia, lo stato dell'arte, e poi da ripartire un po' alla volta a sistemare, indipendentemente dalle nostre ideologie, perché qua non so quante persone siamo, ma sicuramente io so alcune cose, sono d'accordo con te, sono d'accordo con lei, ma non so tutto, è impossibile. Quindi bisogna trovare un discorso giustissimo, bisogna trovare un discorso di equilibrio, però partendo dalle esigenze della città, facendo questa fotografia, se no qui facciamo una bella discussione, ma ai fini pratici dove andiamo? No, ma guarda che secondo me... No, io stavo dicendo che quindi si può trovare un progetto, anche se si hanno idee diverse, esatto. Perché l'esperienza personale che ho in UEF è con una persona che su molte cose la pensa totalmente in maniera opposta a me. ma abbiamo un progetto comune, vogliamo portare avanti il WWF, lo vogliamo ricostruire perché è morto il WWF a Como per colpa delle costruzioni, e stiamo riuscendo a collaborare pur su tante cose, ci scontriamo e ci picchiamo a volte, passatemi il termine, quindi perché abbiamo un interesse comune, deve prevalere l'interesse di Como in questo momento con il rapporto con il resto, e poi tutto il resto basta. Vedi un attimo, sintetizzare questa cosa che 300 teste, 100 idee diverse, nel senso, ok, lo sappiamo, che all'interno di un partito, qualsiasi gruppo siamo, dalla famiglia, a qualsiasi associazione, qualsiasi cosa, poi, però sulle linee basilari, su quello che è la conduzione della città, la pensiamo uguale, in senso positivo, altrimenti non saremmo qua. Cioè, io vorrei vedere chi dentro che dice le paratie, che bella cosa, vanno fatte, l'ospedale è stato messo fuori, andava fatto, la casa industria non andava esternalizzare, cioè è giusto esternalizzare, cioè su queste linee che partono da principi, quindi del miglior servizio alla comunità, perché il principio base è questo, vabbè io metto anche la gestione pubblica che poi vuol dire CSM escluderla dalla gestione dell'acqua, dire sono grandi cose che andiamo a toccare, non è che si vanno a toccare cose piccole, perché partiamo dal principio migliore servizio per la città, prima di tutto della città, i cittadini. E quindi comunque, e però su questa cosa quei candidati invece non lo sappiamo, perché io mi sono sentita dire sì ok la gestione pubblica dell'acqua, però poi vediamo, no non è detto, ma magari in mano al privato, allora io voglio sapere. Anche sulle garantie esattamente, ok, non è che siccome sono a metà, ormai ci sono, ce le dobbiamo tenere, cosa volete fare? Cioè si entra in questo programma, io anzi ringrazio chi comunque è partito, io l'ho prese con altre faccende, ma c'è andato, io ringrazio con chi è partito anche se siamo in ritardo, perché ha fatto un lavoro e mi ha dato un'opportunità, chi non aveva energie e altro. Adesso dobbiamo cercare quel poco che abbiamo, che io so che all'esterno di qua per esperienza, insomma ognuno ci si conosce così, sentite dire varie cose, è stato cercato dall'inizio di neanche farla partire questa cosa, ci sono state dei tentativi di togliere valore, no? Quindi diciamo abbiamo poco tempo, non facciamo niente, in questo poco tempo cerchiamo di fare il massimo, che alla peggio sarà il germe da portare avanti per le altre elezioni, alla peggio. Se poi invece facciamo faville, serve per questa che io ci credo, voglio arrivare a questo. Però allora o deponiamo le armi in questo poco tempo, cerchiamo di fare qualcosa. Sono dell'idea di cercare di fare qualcosa al meglio, sperando di riuscire al massimo. Ma guarda che quello che ha detto, non so chi l'ha detto, che quello che queste anche le nostre proposte servono a coinvolgere, no? E a far modificare, anche ad affrontare, a scontrarsi, ma per anche per verificare, no? Cosa esatto per costruire. Che poi è prodromico al programma, no? Perché dopo dobbiamo anche, adesso c'è un percorso, ma dopo ci sarà un altro percorso ancora, anche perché il candidato che uscirà, no? Non è il candidato vincitore, no? Così è un candidato che deve comunque includere, sapere anche lui raccogliere tutte le cose che abbiamo, no? Quindi io dicevo, le proposte che ha fatto Luca, no? Secondo me, no? Discutiamole se sono questi i temi che vogliamo portare avanti, e quindi discutiamo anche come affrontarli noi poi, perché intanto abbiamo 20 giorni di tempo, 25 adesso prima che si inizi a discutere domani sera, se siamo d'accordo, e se siamo d'accordo poi se non ci sono altri candidati c'è solo lui che si è proposto, però se si è proposto, ma l'avevamo anche sollecitato no, perché sennò sei un narcisista, che lo è, ma non fa niente, non è una candidatura, no. E se c'è qualcun altro va bene, no? Di portarlo avanti, che è veramente il contributo vero e sul quale cominciamo anche a misurarci poi dopo, perché dopo ha ragione anche Claudio, dice, ma io lo so che è così, che abbiamo tante idee diverse, no, all'interno, però veramente non, la prima volta che non mi fa paura, no, capito? Perché ritengo comunque che abbiamo, forse per la prima volta, nonostante tutto e nonostante poi senta anche degli interventi che si potrebbero anche evitare, però sono contento che vengano fuori, no? Abbiamo un livello che si è un po' alzato, che non è più quello di qualche anno fa o di qualche mese fa, dove comunque ognuno stava nel suo orticello e basta, perché io parto anche da quello, ma senza far colpa a nessuno, parlo prima per me, dico, così almeno si evitano delle cose. Adesso siamo qua, no, capito? E ce le diciamo forse anche in faccia, no? che va bene. Però questo, una cosa che volevo dire, questi nostri discorsi, se non sono poi corroborati da qualcosa di veramente concreto, temo che fatti tra di noi vanno bene. Quando vedo qualche giovane che c'è qui vanno meno bene, perché se no rischiamo, no, se li facciamo sempre in continuazione, no, senza fare un passo in avanti, di poi perderli anche, perché è vero che saranno dietro che i candidati, però può darsi che sia vero anche che qualche volta non riescono a sopportare certi nostri atteggiamenti. Quindi manteniamo il fatto positivo di quello che stiamo portando avanti. Io e dico di discutere di quello, delle proposte che stiamo facendo. Posso cercare di riassumere anche per capirci bene, per chi poi domani o dovrà portare avanti la nostra richiesta? Sì, La richiesta sarebbe, se ho capito bene, se c'è un la richiesta sarebbe che, siccome noi abbiamo sollecitato le primarie, partecipato organizzativamente, messo delle energie, non abbiamo un candidato, quindi non siamo una lista, ma abbiamo dato comunque questo impegno, eccetera, a questo punto si chiede al comitato organizzatore nel suo impiego che a noi venga lasciato l'onere e onore di mettere delle persone competenti a gestire 4-5 serate tematiche in cui si confronteranno poi tutti i candidati. Cioè, noi possiamo proponiamo come catalizzatori di questi temi, faremo una sorta di metteremo delle persone che tiriamo fuori noi dalla società civile questi temi, e chiediamo questo come ruolo nostro. Poi ci sarà un moderatore che può essere giornalista, e poi ci saranno i candidati, e all'interno di questo ruolo di stimolo che faremo, la persona che condurrà, che due persone che faranno un intervento introduttivo sul tema, che faranno anche una serie di domande ai candidati per stimolarli su delle risposte, per avere chiarimenti su cose che poi diventeranno i germi del programma comune. È chiaro? È questo che noi chiediamo, ci proponiamo per questo ruolo, lo chiediamo fortemente questo, però non è che poi ci facciamo mettere in ultimo piano, questo lo chiediamo perché alla fine questo infatti è esattamente quello che vorrei proporre io. Anche quello che volevo dire anch'io prima, dico che in più prima mi sembra che sia venuta fuori anche una proposta in più, che era quella di chiedere che i candidati o delegati dei partiti partecipassero ai gruppi di lavoro, che sono dei gruppi che formano le domande che vengono portate qui. Questa è una domanda in più, io non so se su questo sia una cosa ragionevolmente che si possa portare a casa, ma si può chiedere. Sarebbe più completo il percorso. Sarebbe più completo il percorso, ma è più difficile. Però io credo che alla minima la richiesta sia esattamente quella che hai espresso tu, dove però non è la personalità, come tentavo di dire io prima, che si potrebbe portare lì di fianco ai candidati che deve porre le domande. Secondo me i gruppi formano le domande. Una personalità imposta i temi, le domande dei gruppi possono venire poi lì poste dal moderatore ai candidati. Questo è come c'è un rischio in questa cosa qui, però, che diventa una sorta di teatro, cioè che quella roba lì c'è uno che presenta, fanno le domande ai candidati. No, ma in realtà che non è fatto. Questo infatti è. Allora si rompe il nostro. Cioè, io no, questa cosa qui penso che invece la cosa debba essere completamente diversa. Cioè, noi rischiamo, però non sono d'accordo con Claudio, cioè noi abbiamo l'abitudine politica a pensare le cose, a scazzarci fra di noi, a trovare poi una sorta di mediazione di scazzo e poi andare al popolo a raccontare la nostra elaborazione teorica. Allora, qui questa roba qui. È 40 anni che la facciamo, non funziona, è andata male sempre. Allora dobbiamo azzerarla questa cosa qui. Noi non sappiamo niente, noi abbiamo dimostrato di non sapere niente, di non essere capaci di fare niente, perché altrimenti non saremmo a questo punto, saremmo da un'altra parte. Per il fatto che abbiamo questa giunta è colpa nostra, cioè, voglio dire, evidentemente non siamo capaci di fare politica. Allora questa è l'occasione per azzerare questa cosa qui, per avere un po' di umiltà e per voglio dire, per interrogare la gente, per incontrarti con la gente, per diventare cittadini che hanno... Cazzo, allora fanno un meccanismo per cui le persone, perché così altrimenti la gente sta zitta, è come guardare la televisione. Io di fare uno spettacolo televisivo non mi interessa. Dobbiamo coinvolgere le persone, creare un percorso che comincia da oggi, finisce non il giorno delle elezioni, ma alla fine di un mandato, fra 5 anni, fra 10 anni, cioè voglio dire un percorso che è diverso per la gente di questa cosa qui. Basta, chiarissimo. Presentare il tema, poi ci sono dei candidati e chiunque chiede o a chi rappresenta i candidati delle domande, da lì sorge. Cioè, non tutto preparato, certo. Prima ci dobbiamo trovare prima a fare le domande, era quello che sto presentare i gruppi, i gruppi di lavoro che qua si possono formare, che sono quelli che hanno già l'adesione, cosa fanno? Preparano una presentazione del tema, sì. In cui la presentazione ovviamente già da sé fa delle domande, cioè io avevo, mi ero proposta per quello sull'ambiente, io preparo una presentazione in cui faccio vedere i dati, ad esempio io parlo di inquinamento ambientale, aria, presento i dati, scusate, potete stare in silenzio per favore, altrimenti non è interessante. Presento i dati, presento un minimo di elaborazione dei dati per tirar fuori quali sono quelle cose che si possono ricavare, dopodiché questo già è il germe della discussione, no? Cioè questo lo diventa. Poi ci saranno i candidati a cui si chiede, bene, tu cosa proponi per rispondere a questo tema? E poi le persone che a sua volta faranno domande o a chi ha presentato, perché magari non ha capito un dato, non ha capito una cosa, o ai candidati dicendo, ma tu però questo come lo metti, visto che ho sentito dire questa cosa qua? Ecco, io la farei aperta così, una presentazione del tema, mezz'ora come si era anche detto, e poi domande libere e i candidati con la libera espressione di esprimersi sul tema di cui si sta parlando. Una cosa molto più libera, così, non macchinosa con dietro tutta la preparazione, le domande che fate, eccetera. Una presentazione del tema. No, cioè, se tu fai urbanistica, tu presenterai e dirai quante case sono state costruite, da questa, quant'è il consumo del territorio, qual è la proposta, quale sarebbe la città diversa, quali sono le logiche. Tu sei un architetto, sai di queste cose, quali sono le logiche della nuova visione dell'architettura che si fa in altri paesi per renderla più sostenibile rispetto al territorio, rispetto al contorno, eccetera. Poni 2 o 3 temi e su questi la gente chiede apertamente, i candidati dicono quello che pensano, ma quello che dicono lo scriviamo poi. Ma io dico, la gente non chiede, la gente dice. Dice, ma guarda che parla, è difficile, dice. Perché noi non siamo abituati, la gente chiede. Sì. Cioè, scusami, no. Ma no, non è il problema di stimolare, è proprio un altro modo di impostare le cose. Cioè noi qui così riusciamo a parlare stasera, no? Perché in qualche modo siamo tutti alla pari. Sì. Nelle altre situazioni sono dispari, no, dobbiamo costruire. Cioè, scusatemi. Uno si prepara 2 o 3 stimoli per far partire, poi dopo dovrebbe andare da sé, no? Sì, cioè, sì, però forse. Ci sono però degli obiettivi immediati e degli obiettivi che poi vanno sul lungo corso. È anche per questo che io dico, dobbiamo avere però un'idea di quello che bisogna chiedere ai candidati, capito? Ma non per dirigere. Non per mettersi al posto di chi è l'interlocutore, cioè il cittadino, ma quanto per provocare. Okay. In questo momento non saremo pronti a fare un percorso lungo, non l'abbiamo fatto prima, arriviamo in ritardo. E Bruno voleva intervenire. Lasciatemi dire questa cosa perché è veramente una cosa che ascoltando mi viene da dire. Allora, anche ascoltando voi si ha l'immaginario che un candidato del centro-sinistra possa essere come un candidato del centro-destra destinato a fare una sorta di piccolo principe o di piccolo potestà. Allora, se noi partiamo con questo passo, permettetemi di dire, partiamo con il passo sbagliato. Nel senso che io ho le mie idee, evidentemente, ho elaborato esperienze, punti di vista, ho sentito tante cose qui stasera, moltissime dovrebbero essere ridiscusse dall'inizio proprio perché la lettura che ho io è diversa dalle letture che sono emerse. Ma non è questo importante. Secondo me la cosa rilevante nella relazione e nella scelta che i cittadini faranno del candidato, perché noi stiamo facendo un percorso che porti a individuare la persona più adatta, tra virgolette, per esprimere non soltanto delle posizioni programmatiche, che queste ovviamente saranno fatte, saranno costruite, ma secondo me di più e di diverso uno stile di far politica che deve caratterizzare un'alternativa anche di pensiero al centrodestra. Cioè, non, francamente sono intervenuto con un po' di fatica per dirvi questa cosa, invece sono, visto che candidato sono stato invitato a farlo e ho accettato questa proposta, a me interessa moltissimo tentare di capire e di rendersi interpreti, capite cosa voglio dire? Questo è il problema vero. Il fatto della molteplicità delle posizioni è sicuramente una ricchezza, però è evidente che la città e le scelte possono andare solo in alcune direzioni. Allora, il problema è in quale direzione si può andare e perché. Quindi disegnate una serie di riferimenti che sono quelli condivisi, le possibilità, le risorse, le vie per arrivarci, il modo di costruire, vi dicevo per esempio la partecipazione che si sta... Allora, questo credo che sia il tema importante, perché quando voi mi dite interroghiamo i candidati per sapere cosa pensano di questo, questo e quest'altro, io francamente sono anche disponibile, non mi pongo nessun problema, ma non credo che sia questa la cosa vitale. La cosa vitale è un'altra dal mio punto di vista, poi non so quale sia la strada davvero per farla emergere, però secondo me su questo bisogna ancora pensare. Ma qual è la cosa vitale, scusa? La cosa vitale è, come dire, anche proporre, presentare, se possibile, un modello di relazione con i cittadini, con gli elettori, con le forze politiche o chi ti sostiene, che abbia un senso. Cioè l'idea della delega non è soltanto un'idea della destra, un'idea molto presente della sinistra, mandiamola a quello là e poi dopo se va bene, se non va male, diciamo non pirla. Il problema non è questo, costruiamo delle strade e io, come dire, ho grande rispetto di questa assemblea, anche se sono parte evidentemente di qualcosa che non è questa assemblea, perché credo che questo sia, come dire, ringrazio Danilo perché effettivamente ha grande equilibrio nel tenerla legata, un luogo di sintesi, secondo me è essenziale che questa sintesi ci sia, da parte mia per capire, per osservare, ma anche da parte, diciamo, dell'assemblea per costruire questo modello non è solo fatto di cose da fare, è fatto di stile, è fatto di relazione, è fatto di modi di costruire la partecipazione a partire dalle persone che più sono motivate. Questo tema come lo facciamo venire fuori? Cioè che garanzie do io da Lucini, da Giselle Introzzi, da Ian Torrent, quelli più quattro, da Luca Michelini affinché questa cosa esista? Cioè non esista solo nel passaggio elettorale, perché è utile che qualcuno sostenga qualcuno. Ma dopo, cioè, quello che viene dopo, come lo facciamo? Qui state citate, mi piace che Donato Cipino sia andato lì. Ma quando lui dice, voglio capire sulla questione Cadindustria, la questione Cadindustria, che voi sapete è stata una questione grossa, è stata mossa con estrema fatica da alcuni di noi e poi ha generato una partecipazione di tutti. Allora, il problema è, questa partecipazione su un tema come quello, può essere generata invece che da qualcuno che vede il problema anche da chi lo vede stando da un altro punto di vista, dal punto di vista del cittadino, con quale strategia, con quali percorsi, attraverso le forze politiche certamente, ma anche attraverso luoghi di confronto che possono essere, come dire, sistematizzati. Io credo che sia interessante domandarci se ha senso, e io credo che ce l'abbia, da un'esperienza come questa costruire una sistematicità di confronto. Sistematicità non finalizzata all'elezione, ma finalizzata alla prospettiva amministrativa, anche perché appunto su alcune questioni che si buttano là in maniera molto semplificata, la questione barattie, per dirla, ne stiamo parlando in Consiglio Comunale adesso, c'è una montagna di soldi già spesi, una barca di soldi ancora da spendere, dopodiché come ne usciamo? Come ne usciamo? Con la restituzione di soldi eccetera eccetera, cioè indebitando la città, questa è l'unica via d'uscita, anche se ribadisco io proprio la coscienza pulitissima nel 96 ho fatto di tutto per far capire cosa sta per succedere e che il progetto era proprio quello dei muri che poi qualcuno ha visto finalmente, sì, ma quelli che hanno provato a dirlo prima, guardate che si va oltre il punto di non ritorno, oltre il punto in cui la città, questa cosa quando si affronta, quando la affrontiamo seriamente e serenamente, come la questione della vendita dell'acqua, a questo punto che cosa facciamo? Io ovvio con le mie idee, ne abbiamo discusso molto all'interno del mio movimento su cosa si può fare, non abbiamo la visione univoca, abbiamo anche lì dentro, però tu dici ci candidiamo ad amministrare la città, non mi, ci candidiamo ad amministrare la città, su questa cosa costruiamo una risposta, chiediamo ai cittadini di sostenerti in una risposta, ma devi anche dire che cosa succede dopo. Cioè non fare una risposta semplicemente enunciata senza dire le le conseguenze successive, oppure articoli delle possibili risposte. E su questa cosa il confronto non può essere di un minuto, deve essere un confronto che va avanti, e l'informazione che tu possiedi e che non è condivisa viene resa disponibile proprio per costruire la risposta possibile, oltre che la risposta idealizzata. C'è la risposta idealizzata, ma c'è la risposta possibile. A me preoccupa soprattutto questo, mi preoccupa soprattutto in che maniera, essendo io reso disponibile con la mia candidatura, costruire un'altra, come dire, meccanismi che non sono solo quelli del mio movimento, perché la partecipazione per un gruppo molto esteso, di una coalizione molto larga, forse neanche precisamente definita, possa avere le gambe. Questo mi sembra il problema più grande, sono quello che vedo io. I singoli problemi sono, ve lo dico francamente, marginali, ha ragione la Edi. Su certe cose credo che sia scontato che entrando da quella porta la pensiamo allo stesso modo, cioè su alcune questioni grandi. Se non la pensassimo allo stesso modo su alcune questioni grandi, perché saremmo qui? Allora il problema non è se la pensiamo così su alcune questioni grandi, è come gestiamo insieme, in una prospettiva di partecipazione, ma una prospettiva seria e critica, gli eventi che dovremmo costruire nell'ipotesi che tutti ci auguriamo di una alternativa a quella dell'amministrazione attuale. Questo secondo me è il compito reale di questa assemblea. Se questa cosa funziona, non solo come singolarità, ma anche come espressioni rappresentative. Per esempio, trovo inquietante che il PD non sia mai qui. Ci sono stati qui alcune persone del PD, magari solo a sentire, però non va bene, cioè secondo me non va bene, bisogna che in questa cosa ci sia la disponibilità a compromettersi. Cioè, se tu non sei disposto a comprometterti qui, capisco il dubbio del costruire questa cosa, però dobbiamo creare le condizioni perché anche Lucini, Iantono, ma lo stesso PD si comprometta qui. Cioè, se uno non è disposto a compromettersi qui, secondo me ci sono delle condizioni critiche a priori che fanno venire fuori quella storia vecchia che diceva Donato Supino. In questo momento io non sono favorevole ad accreditare questa ipotesi, percepisco per altri versi che ci sono elementi positivi, che ci sono situazioni che possono anche dar luogo a davvero una realtà completamente nuova, però bisogna creare le condizioni perché questa cosa avvenga. Ho parlato, lo dico, con Gisella Introzzi, che non conoscevo a lungo, credo che lei sia una persona disposta anche a fare questo tipo di percorso. Sono più preoccupato del PD, nel senso che se sta arroccato poi diventa difficile, a parte passaggi come stati detti di incompressione anche momentanea con qualcuno. Da parte mia sicuramente, ma credo anche da parte di tutte le persone di parco, c'è disponibilità a riconoscere un luogo al quale cambieremo il nome, ovviamente, perché finite primarie diventerà ovviamente qualcosa d'altro. Però l'abbiamo già trovato prima però questo mi sembra il nodo centrale, cioè perlomeno è la cosa che io personalmente vivo con più domande, capito? Non ho problema a discutere sul tema, mi interessa però il mente. No, io vedo perché le due cose siano o questo o quello, cioè, siamo nel senso che io ho sempre visto viaggiare qua parallelo insieme il metodo, perché è importantissimo un metodo, non è perché i metodi vecchi, perché sono vecchi non vanno più bene, perché sono diventati patologici, sono diventati malati, hanno preso delle strade che proprio sono diventate brutte, che non funzionano, sono malate, perché fanno dei giochi che non è quello di portare avanti gli interessi della comunità. Prima c'era gente che faceva le cose perché ci credevano, e dicevano, questo lo metto a disposizione facendo il sindaco, facendo l'assessore, il consigliere, se ci riesco. Spesso è l'inverso, io faccio questo perché così ho voti, no? Per dire, è un segno di tanti, e questo è patologico, questa è malattia del metodo. Noi stiamo cercando adesso di fare un metodo diverso, prima di vedere anche questo, usciamo da questi giochetti e cerchiamo, però non puoi uscire, non puoi avere i metodi se non sai anche i programmi, cioè le due cose devono viaggiare insieme, ovvio, non nei minimi particolari, il tempo è poco, quello che è, qualcuno avendo vissuto come acqua, noi quei sindaci dobbiamo anche dirgli di nausea come lo affronti, se c'è quella che hai giocato in borsa come fai, cioè è ovvio che poi ci sono, non si prescinde, sappiamo che ci sono questi problemi, e chi si fa carico, che ti dà una soluzione, deve anche farsi carico poi di affrontare tutti questi problemi. Non possiamo, una cosa cosa non può prescindere dall'altra, comunque devono viaggiare insieme e si fa quel che si può, insomma. Comunque secondo me la correzione che ha dato Patrizia ai tavoli tematici credo possa andare. Sì, appunto, mi chiedo se i due delegati hanno capito. Sì, il delegato deve ancora essere confermato. Il metodo che, di cui si allora, diceva, no? Ci avviciniamo alla fine della serata. Innanzitutto dopo deve parlare un attimo lei. No, io volevo parlare un attimino velocemente, un po' dei tavoli tematici. Io quando ho proposto il tavolo sulla demografia sociale non lo pensavo una cosa finita per le primarie, ma la pensavo un discorso, per quello che volevo che chi si impegnasse realmente, perché la demografia sociale proprio è sempre in itinere e in evoluzione, ma perché doveva diventare secondo me uno strumento di pianificazione e di programmazione della politica sia sociale che sanitaria e giovanile della città. Quindi una cosa che deve essere fatta in itinere, partendo sì dalla rielaborazione dei dati, perché è il punto fondamentale, ma poi per dare anche una pianificazione e un'idea di dove stiamo andando, ma con la partecipazione, perché purtroppo secondo me la politica in questo momento ha continuato a creare bisogni ma non ha risposto ai bisogni reali. Onestamente io ho sentito cose assurde e credo che la città di Como non abbia bisogno di una pista sciistica sul lago di Como, ma abbia bisogno di qualcos'altro. Allora se la risposta ai bisogni della città è la pista sciistica, vabbè, andiamo a Dubai e siamo tutti contenti, però non è questo il problema, io sarò fissata è che noi abbiamo un target giovanile che se ne sta uscendo. Cosa facciamo? Vogliamo far uscire? Facciamo entrare la città sempre più vecchia? Oppure vogliamo rispondere veramente a delle esigenze dei giovani? Ma non dobbiamo essere noi, chiediamolo loro cosa vogliono, perché se noi decidiamo appunto che vogliamo una pista sciistica, questi, scusatemi, ci vengono dietro, ma veramente, per i vostri figli, siete fuori di Cotenna, cioè se voglio vado a San Moritz, ma non voglio una pista, cioè. Quindi secondo me il vero problema è, quando per quello che io sto parlando nel tavolo che ho proposto io, è qualcosa che debba essere, che va al di là di questa contingenza, sennò io onestamente non mi ci metto perché ho talmente tante cose da fare che mi mancava solo questo. Se diventa uno strumento reale di collaborazione, di pianificazione del territorio e, visto che io sono una figura sanitaria e sociale, di sanità e sociale mi va bene, altrimenti signori cerchiamo tutti a casa, perché secondo me qui veramente se vogliamo arrivare che questo strumento dell'assemblea abbia valore, che diventi veramente qualcosa di propositivo, ma sempre, non legato al contingente primarie, primavere eccetera, altrimenti credo che tutti qui per concludere, no, guarda che comunque i tavoli sono per discutere di alcuni temi che poi abbiamo già detto da 8 sono diventati 4 per esigenze così, ma i temi devono andare avanti, c'è un periodo enorme anche in fase elettorale, pre-elettorale di confronto, ma dopo no? Quello che diceva lui è giustissimo, tu non devi mai fermarti, altrimenti è finito. Certo. E poi dopo la campagna elettorale guardate che dovremo confrontarci tutti, non dico tutti i giorni, ma certo, sono d'accordo. Allora, io... Mi fai dire poche parole soltanto? Sì. Mi piace che questa è la seconda volta che partecipo all'assemblea, quindi ho perso un po' di vista su come evolversi la situazione. Certo, quantitativamente mi ricordo che quella a cui ho partecipato la prima volta là nella circoscrizione era più numerosa, c'era un folto gruppo di giovani, tra l'altro abbastanza vezzeggiati, tutto sommato da tutti noi, no? Tutti noi vecchi. E questo insomma, potrebbe essere un fatto negativo. Però il fatto che adesso ci si debba concentrare soprattutto sul programma, i famosi tavoli, significa che abbiamo degli obiettivi, avete, abbiamo, se posso dare la mia collaborazione volentieri. E i problemi sono due. Primo è un paradosso, forse l'avevo detto anche l'altra volta, per dire una città così male amministrata raramente si è vista, sembrerebbe proprio di sfondare una porta aperta riuscire a sostituirci a loro, no? Però sappiamo che è così perché la città ha le sue caratteristiche, è difficile demolirle. Anche la sua caratteristica, la città è anche quello di non correre se non se c'è qualche cosa di eclatante, di come facendo nel MU, allora siamo tutti accorsi, era una cosa visibile, si capiva e a lei. L'altra cosa che citava Supino prima è quello della casa industria, anche qua parecchi hanno anziani che sono nelle case di riposo, di conseguenza il problema era sentito tantissimo, perché d'impatto la gente non viene, lo dicevamo prima con Santina, la gente fa fatica a partecipare ai momenti di discussione. Per cui noi dovremmo impegnarci molto proprio su quei temi lì, cercando di andare a trovare, lo dicevamo anche l'altra volta, credo che anche Tonina diceva queste cose, dobbiamo andare a cercare la gente dove c'è, insomma, e quindi fare anche un lavoro capillare che è chiaro se è riservato personalmente a noi, però penso che sarà il caso di farlo. Quanto poi ha la consistenza poi, diciamo, politica di questa assemblea? In fondo sono anche d'accordo con Eli e quindi in contrasto con quanto diceva mio marito, perché in effetti se siamo qui c'è qualcosa che ci unisce, no? E quindi credo che questo sia abbastanza per farci sgomberare il campo da queste differenze ideologiche, osservo tali, che tutto sommato ci trasciniamo sempre e che sono importanti, e che pur ci sono, sono importanti, tu ne indicavi qualcuno, certo, ma mi pare che anche nei tavoli ci sia naturalmente la tematica economica, perché non ci sia, quindi anche lì il discorso con l'Expo per esempio ci va benissimo, quindi però l'orizzonte, davanti la procedura che poi lui spiegava, mi sembra con le aggiunte della... Mi sembra che vada bene, insomma, che ci possa tranquillizzare, perché ci sia un dibattito così. Va bene. Vai. Posso? Una velocissima riguardo i tavoli tematici. Secondo me diventa un po' complicato coinvolgere anche tutti sul tema, intendo tutti, come diceva Marco, chi sta lavorando per i candidati, chi sta lavorando per per i candidati attraverso i partiti. Io lascerei il ruolo dei pungolatori a chi è qui in prima livello per come. Poi circa le domande, secondo me, verranno spontanee anche dal pubblico, sperando che ci sarà, insomma, certo. Se no diventa una specie di tribuna politica, giornalistica. Invece si potrebbe lasciare più respiro anche al pubblico, con una piccola introduzione, senza che le domande verranno. Al limite, se non ci saranno domande, qualcuno sarà compito anche nostro. Cioè, io lo vedevo un po' così, però non è un punto di vista. Dal punto di vista ottimo, anche perché il tempo, cioè, voglio dire, abbiamo tempo per. E poi, voglio dire, siccome qualsiasi tema, io sono coinvolto solo dell'ambiente. Sarà così lungo respiro, poi si spera che ci saranno altre serate, anzi io pensavo proprio che il coinvolgimento del pubblico poteva portare elementi su cui poi lavorare man mano per coinvolgere più persone, in questo senso. Anche perché io sono convinto che è l'inizio di un percorso questo, perché dopo ci dobbiamo lavorare, dopo sì, forse che dopo entrano anche in gioco anche altri, no? Perché e potrebbe essere l'elemento poi che unisce. Potrebbe dare dei nuovi elementi su cui discutere, portare anche realtà che magari non conosciamo. Va bene, ecco, chiudiamo perché vedo che la gente comincia ad andare via, alzarsi. Tu non devi dire nulla questa sera, sì, tutto. Allora, io direi, no, non ci sono astenuti qua, abbiamo detto o sì o no. Allora, io direi, già anche per essere un po' formali, no? Innanzitutto, se siamo d'accordo di indicare in sostituzione Gianfranco Giudice Marco Longatti. Chi è d'accordo alzi la mano, perché dobbiamo far così, ecco. Chi non è d'accordo, basta. E quindi domande, no, gli astenuti non ci sono. Va bene. E poi sulla proposta che è venuta fuori adesso, anche con l'integrazione sua, che può andare bene, no? Va bene. Quindi se comprendo bene, cioè quello che si è detto con il PD, quello che hai detto tu adesso, è di portarle in questi incontri più che altro al dibattito. E questa mi sembra una cosa. E che i pungolatori dobbiamo essere noi. Ecco, su questa cosa qui io non so se la cosa più opportuna è uno di noi, un pungolatore. No, sul fatto che io ho proposto il coinvolgimento sostiene i candidati in questa cosa. Invece cioè, Maurizio dice no, facciamolo noi. No, ma intendevo dire, facciamo noi il discorso di portare l'argomento, mettere quattro idee fondamentali su cui si presume che possano essere tutte cose che sono delle criticità. Cioè, no? Ci sono argomenti più tecnici dove magari è più facile utilizzare le criticità anche di mio. Dopo da lì la serata parte, anche perché non abbiamo tanto tempo. Forse basterebbe tecnicamente far parlare prima la gente. Scusate una cosa, dopo lasci parlare. Lì c'è una cassettina gialla, no? Perché dopo ci si dimentica sempre. Scusami, schizzi. Fagliela vedere bene. No, vai. Senti, Leo, rovesciare le cose, cioè si parla prima la gente e poi i candidati. No, alla fine. No. Puoi dire avere la gente. Non ho capito, tecnicamente pensavo che forse basterebbe rovesciare i meccanismi normali, cioè si fa un'introduzione, le paratie, dopodiché non parlano i candidati, si ascoltano le persone parlano e poi a quel punto i candidati alla fine di cosa poi intervengono, cioè si rovescia proprio il meccanismo, però voglio dire, parliamo nella fine. No, io ho un tecnico. Cosa fa questa persona che noi vediamo ogni volta in volta sul tema? Quello che chiamavo la personalità, che potrà stare sulle palle, ma secondo me è quello che dà il tono al discorso. Sì. E questa qui è quella che porta. E poi ci possono essere interventi in forma di dibattito. Non tanto di dibattito. Scusate un attimo. Prima che termini, ti pongo due questioni che secondo me sono fondamentali perché le abbiamo messe per iscritto e sono nel regolamento, però bisogna dargli corpo e gambe, e riguarda il voto dei sedicenni, dai 16 in su, e il voto degli stranieri. Noi, secondo noi, ne abbiamo discusso prima. Ma fallo finire. Allora, dato che il regolamento è passato il voto anche agli stranieri e ai sedicenni, io pongo la questione al comitato promotore e secondo me dobbiamo porla domani, che si faccia una campagna di informazione nei confronti dei sedicenni e degli stranieri, perché sennò questa cosa non ha senso, ci mettiamo su la bella patacca che facciamo votare gli stranieri, i sedicenni, e poi loro non lo sanno. Ci sono i canali per fare pubblicità a questa cosa, io propongo che prima di avere quel comodo domani proponga a sua volta al comitato organizzatore una campagna speciale su questa roba. Sì, ok. Sì, quello che gli avete dicevano. Sì. Sì. Lei deve dire una cosa, che secondo me è molto importante. Questa qua è la prima modella. Scusate un attimo. Io faccio parte dei giovani democratici, ho avuto modo di presentarmi anche in una riunione. Non si sa niente. Poi venire, scusa, portato il nome del teatro. Dirò questa voce. Allora, sicuramente questo è un tema importante. Io faccio parte dei giovani democratici di Como, quindi PD, non tiratemi le frecce. E praticamente noi ci siamo accorti di questo problema. Effettivamente, appunto, il voto per i sedicenni e per gli stranieri è una cosa fondamentale, ma siamo consapevoli che nei nostri partiti di sinistra, diciamo, manca una fetta importante, che è quella degli studenti nelle superiori. Pertanto noi abbiamo pensato di creare un gruppo, diciamo super partes, nel senso che cerchiamo dei giovani di tutti quei gruppi di sinistra che magari adesso non partecipano alle primarie, ma che hanno come obiettivo comune quello di aiutare, di promuovere in tutto e per tutto l'esponente che uscirà dalle primarie. Perché, lo sapete meglio di me, a Milano i giovani sono stati fondamentali per Pisa Tia. Quindi da qua dobbiamo partire, noi vorremmo fare una rete che non si ferma come, ma che vada anche nelle città più importanti in cui ci saranno queste elezioni. È una cosa che sta nascendo ora, di cui vorrei parlare anch'io domani all'assemblea, e sicuramente abbiamo bisogno dei giovani, adesso c'era il ragazzo dei giovani comunisti, ho visto che è andato via, però sicuramente questo è un passo che dobbiamo fare per forza. Col vostro aiuto, sinceramente, perché quantomeno noi dei giovani siamo favorevolissimi a queste primarie, penso che sia una delle più belle cose che siano uscite a Como in questo periodo. e i giovani ci sono, perché sono stanchi sicuramente dell'ultima legge che è uscita contro i giovani, diciamo. Purtroppo è vero, bisogna stimolarli per queste cose, sono cose magari che possono sembrare futili, ma è un punto di partenza, che ci porterà poi alle amministrative. Quindi da qua nasce, vabbè, poi dopo crescerà. Perché tutto non si mette in piedi un evento con Arci, che è rimasto sempre lì ancora in sospeso? Esatto. Un secondo evento con Arci di taglio c'è più giovanile. C'è la disponibilità, infatti, da parte di Enzo. Che c'è la disponibilità. Sì, sì, sì, ma infatti... di taglio più giovanile di quello che è stato fatto la prima volta, che sinceramente era un po' bolso. È vero, esatto. Dobbiamo partire anche noi da qua. Facciamolo nel prossimo mese. Guarda, io sì, sì, quello carico. Sicuramente. Noi vorremmo fare proprio un incontro con i candidati per i giovani. Quindi non vorremmo rubarmi. Ma anche diffondere anche la cultura e la cosa delle primarie, capito? Proprio della partecipazione. Che non conoscono e non è presente nel territorio. È un punto di partenza, dobbiamo lavorare solo per questo e... Fra poco nascerà il gruppo anche su Facebook, quindi se partecipi più volentieri. Un altro. Sì. Penso, lascia un gruppo su Facebook. No. Va bene, allora io dico, chiudiamo la riunione di questa sera, ci vediamo presto comunque.